Amort, ti avrà detto qualcosa il signor Amort? Signor Amort. Mi ha detto che il caso era grave. Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto? Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire. Cioè, ma immaginale. Che ha fatto? Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui. Ci hai provato con padre Amort? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Per una lira io vendo tutti i sogni. Deciso. No, ma dice gli italiani, io sono italiano, no, io voglio la lira, sono capito, per la lira. Tu però non ci sei solo tu in Italia, ma lui dice che ho deciso, non ho deciso un cazzo, non ci sei solo tu qui. Vabbè, però io sono per la lira. Di non amare, amico caro. Abbiamo scoperto ieri sera a Piazza Pulita uno Sgarbi a favore della lira contro l'euro. A un certo punto era completamente impazzito, fuori controllo, sembrava Radio Belva. Affare sai, basta ricordare di non amare. In Europa lo hanno deciso Ciampi e Prodi, andate a fare in culo. Senti, noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo. Sgarbi. Ciampi e Prodi, vaffanculo, non l'ho presa io. No, Vittorio, non l'abbiamo presa. Vittorio. Non c'è stato un referendum. No, perché non è che sentiamo che l'ho presa io. No, okay. Però... io ero in Parlamento, non ho votato nulla. L'ha presa Ciampi e l'ha presa Prodi. Tutto il mal capitato era l'imprenditore Brambilla. Povero Ciur Brambilla. Signor Brambilla, che viene intervistato. E Pasolini! E Pasolini! Adesso, Pasolini non c'è. Perché ogni volta quando c'è da fare questa difendere, sì, ma queste stavolta, cause stavolta di pedofilia e Pasolini e Moravia e Moravia, ma cioè, c'è da Moravia, scusa. aspetta ancora dai. In democrazia credo che si possa esprimere il proprio pensiero, dai, ma non hai un andiamo pensiero. andiamo dritti al punto. Gli italiani hanno avuto tanti anni per poter dire non sono d'accordo con l'euro. Ma chi lo diceva? No. Ma dove? Ma con chi? No. Ma chi? Ma che cazzo dici? Non parla degli italiani, parla della politica italiana. Parla di Ciampi, parla di Prodi. Mi sembravi anche uno abbastanza eversivo. Sei un conformista. Vittorio, posso fare? Io sono italiano. Senti, ma perché non parlare per me? Posso fare? No, posso fare. Io sono tedesco. Io sono svizzero. Posso fare un discorso serio? Sì. Cioè, tu stasera mi vuoi rovinare la trasmissione? Sì, abbastanza. Mi sembra abbastanza. Ancora. Ho potuto decidere? No. E parlo di me che non sono l'ultimo coglione. Sono il penultimo, ma non sono l'ultimo coglione. Io non c'entro. Meno allora, uno. Io adesso voglio sentire il parere di Brambilla. Non voglio sentire il tuo. Dai. D'accordo, ma basta, che non parli di me. Dai, grazie. Come dicevo, gli italiani... No, però lui non deve stuzzicare. Allora c'è sempre ragione lui. Italiani. Italiani hanno avuto modo durante questi anni. E poi come poteva mancare, Brambilla parla per le capre. Questa cosa non è accettabile, quindi. Ma gli italiani, lo volevate l'euro? Lo volevate l'euro? Allora non parla per altri, parla per gli svizzeri, per i tedeschi, per le capre. Mi dispiace che tu stasera faccia così, mi dispiace. Ma sono serenissimo. Ma sono serenissimo. Ma ieri a un certo punto era impazzito, era sudava. Ma sono serenissimo, ha detto di tutto. Spettacolo, ma sono assoluto, serenissimo. Dai, spettacolo. Sai che c'è già un signore qui? Sì, lo so, adesso, adesso arriviamo. Sì. Adesso arriviamo col signore che ce lo cuciniamo un po'. Ma ho paura di questa però volta. Lui potrebbe cucinarci perché esatto, è esperto di communication. Di comunicazione. È arrivato qui alle 4 del pomeriggio. Siamo come alle 4? Non c'è un cazzo di chiedere. 2:30 e c'è un cazzo da fare, scusa. No, vado a fare. Senti questa cosa qui, non pago una lira di tasse, le pale eoliche. Ma questo è spettacolare, le pale sempre eoliche. Lui. Ci sono sempre le pale eoliche. Sempre, sempre. Sempre con le pale eoliche. Sempre. Ma dai. Sarò anti-europeista, io non voglio né l'euro né pagare le tasse per dare i soldi a quelli lì, non pago una lira per dare i soldi alla Consulta, non pago una lira, non li voglio dare, non voglio dare una lira a Moretti, a Scaroni, non di più, odio Conti, io Conti lo arresterei, perché uno che mette le paleoliche in tutta Italia e gli do anche 6 milioni di euro, nel culo glieli voglio dare, le paleoliche, non voglio una lira, non mi do una lira. Conti delle... E Pasolini! Vabbè. Che c'è da Pasolini con le paleoliche? Però questa è stata una parte spettacolare. Sì. Ma io mi sono a un certo punto imbarazzato in una splendida puntata ieri di Piazza Pulita condotta da Formigli. Per la 6%. Per la figura, sì, ma non mi interessa, sempre no, a pensare agli ascolti. Dati, cifre, numeri, e beh. Sì. Allora, ma che me ne frega a me? Io guardo quello che dicono. Allora, Angeletti, segretario generale della CISL. Che ha fatto, signor Angeletti? No, della Will, quello della che Will. Aspetta, Angeletti. Allora, io non lo sapevo questa cosa qua. Sono stati bravi a scoprirlo. Angeletti prende 25.000 euro l'anno. Sì. E non meno lui, sa perché? Per non andare mai al CNEL, i nostri amici del CNEL. Una cosa impressionante, cioè prendo insieme ad altre 60 persone, prende 25.000 euro l'anno, che non sono tanti. Perché i sindacalisti fanno parte del board. Ma chi se ne frega, 25.000 euro, 25.000 euro, che tra l'altro è un organismo costituzionale. No, ma sì, ma lo sappiamo, non stare sempre a precisare. La Costituzione, ma no, ma io per me dovrebbe essere soppresso domani mattina al CNEL, domani mattina. Vabbè, certo. No, prende 25.000 euro, ma senti. Senti, per una lira. Gente, al CNEL c'è anche, fa parte del CNEL anche lei, non c'è mai andato? Raramente. Raramente. 2013, 12 assenze su 12 mesi. Appunto, raramente, non lo so, qualche volta sono andato. 25.000 euro, non so tanti, insomma. Noi li versiamo al sindacato. Ma il sindacato l'ha presi per che cosa? Sulla base di che? Se lei non c'è neanche mai andato? No, perché non è che si paga, almeno per quello che io so, c'è un'indennità che, dalla quale si scala, credo, se tu non vai alle riunioni. Quindi il mio sindacato ne prende un po' di meno, perché io non vado quasi mai, quindi. Dovrebbe prendere niente, diciamocela. Sì, ma credo che, non so, prende... però... Beh, era francamente imbarazzante. Cioè lui non sa che cosa, secondo me non sa manco che cos'è il CNEL. Non c'è mai andato. Prende 25.000 euro che vengono dati vergognosamente, vergogna, pazzesco, al sindacato direttamente. Direttamente al sindacato, che non è sufficiente, che prende i soldi, che prende in più pure 25.000 euro dal CNEL. Vergogna. Ma senti la proposta di Angeletti, senti la drammatica proposta di Angeletti, che vuole dare i soldi indietro ai contribuenti, 2 centesimi. Una cosa pazzesca. Posso, questi 25.600 euro che ha preso la Will, ma lei non c'era al CNEL, si impegna a restituirli ai contribuenti? Lo chiediamo anche a tutti quelli che li hanno presi anni. Sì, cioè, allora, 25.000 euro li restituite ai contribuenti italiani? Sì, sì, no, io sono per restituirli ai contribuenti, non allo Stato. Quindi se troviamo una formula per la quale arrivano sicuramente nelle buste pacche. Dove devono andare? No, cioè, come dire, glielo spiego. Se no spedite noi. No, glielo spiego come succede, con lo scopo d'uso. Cioè 25.000 euro devono andare a ridurre le tasse, 2 centesimi per uno, ma a quello scopo, e l'amministrazione non può usarli per nessun altro motivo. 2 centesimi per uno, cioè, io veramente, è una cosa incredibile. Dovrebbe dire: io rinuncio a questi 25.000 euro e non li prende nemmeno il sindacato. Va bene, molta carne al fuoco. 800240024 per introdurre il personaggio, primo ospite della Zanzara. Facciamo sentire un Vittorio Feltri di ieri, sì, qui alla Zanzara spettacolare. Sì. Perché Feltri dice sostanzialmente che Berlusconi è come Bossi. E Berlusconi è come Bossi. Cerchio magico. Cerchio magico intorno a lui: Pascale, Rossi, Dudù. Secondo me ormai Berlusconi è ridotto un po' come Bossi. Vi ricordate quando aveva il cerchio magico, eccetera, che fece anche una brutta fine. Io spero che non ci siano delle analogie tra la situazione di Bossi e di Berlusconi. Però il sospetto c'è, perché adesso Berlusconi vive praticamente in ostaggio del cerchio magico. Per una lira. Aspetta, però, vi è appena arrivata un grillino alla camera. Sì, quella circonciso, certo. Breve e circonciso. Sì, ma lui... questo guarda. Cosa? Poi dici, no, poi dopo ricariamo la dose. Vuoi infierire? Abbiamo tempo. Si chiama Tripiedi. Pronta. Perché hanno tutti nomi così strani, ste? Tripiedi, come i tre questo piedi. L'hai detto tu. Tripiedi. Ma Tripiedi, vabbè. Non amare. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripiedi a titolo personale, prego. Grazie Presidente, breve e circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria coinciso, preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Prego. In realtà forse sbaglia pure Baldelli, perché non è coinciso, è conciso, breve e conciso. Mamma mia! Paolo Liguori è con noi, buonasera! Buonasera, applausi, buonasera! Applausi, buonasera. Finti sotto per cortesia, applausi regia! Applausi finti, per Paolo. Overi, finti overi! Eccoli, ancora! Sì. Applausi a Liguori, ancora! Tanto ci costano meno del costa CNEL! Mamma mia! Ci costano mamma meno del CNEL! Senti, Paolo, ma Berlusconi è come Bossi, cerchio magico intorno a lui, non dirmi no, di no che è così, dai, non Feltri, fare... Non fare... Feltri non è direttore dell'unità, no. Liguori! Feltri è come Bossi! Bossi è un passo da Bossi, un po' no. Di... sì, spettacolo. Cioè? Ieri lui ha fatto un po' di spettacolo per voi, ma devo dire che lo spettacolo delle pale eoliche nel culo che ha inscenato Sgarbi era più di che qualità. Vabbè, stai adesso cioè, stai divagando, stai dribblando, direttore. Vabbè, allora, ve la dico subito. C'è il cerchio magico? Allora, di magico non c'è quasi più nulla in Italia, quasi più nulla. Solo Berlusconi in che l'ha Forza detto. Forza Italia, forse Berlusconi è magico perché è lì e resiste a queste cariche che arrivano da davanti e con Feltri anche da dietro. Cioè, scusa, certo fuoco che Feltri... amico, fuoco amico. Che Feltri ogni tanto non fa sempre, per esempio sul giornale dove... Ma non è il direttore dell'unità Feltri? No. Ma perché uno libero di testa, Paolo? È libero di testa la zanzara. Poi come la zanzara? No, come la zanzara? In generale è libero no, di testa. No, perché non scrive queste cose. Lui scrive tutti i giorni. Ah, cioè tu dici che è un paraculo, Feltri. Paraculo a gettone. Paraculo a gettone. Come a gettone? Noi non lo paghiamo, Non lo paga Berlusconi. È logico che non lo pagate voi, siete dei poveretti. Cioè, un vile. Che lo stai dicendo che è un vile? No. È un paraculo, non è un vile. Un paraculo. No, un paraculo, tu dici, siccome dice, queste cose non hai coraggio avessi, di dirle al se giornale. Se avessi voluto dire vile, avrei detto vile. Sì. Se lui pensa quelle cose che ha detto a voi, e però se venisse interrogato direbbe che non le pensa, che ha scherzato perché no, è venuto alla zanzara per scherzare. Non è vero. Ma sicuramente direbbe così, sono quasi certo, altrimenti le potrebbe scrivere. Tutti i giorni scrive, è pagato per scrivere, è ben pagato per scrivere. Cioè dici perché non le scrive giornale, sul giornale, se ha coraggio? Dillo. Cose. Non le scrive. Perché? Io non dico, perché? Io non sfido, perché a sfidare le persone... Sfida Feltri no, su questo. Ma io non sfido nessuno. Abbia il coraggio perché... di scrivere sul ma giornale di Paolo Berlusconi. Non sfido, io affermo, non le scrive sul giornale, io non ho bisogno di sfidare, sono una persona anziana. Ma al di là di questi, al di là di questo, dice la verità o no? Perché è così? Non dice la verità, fatti. Ma che vuoi che ci sia cerchio magico? Ma queste sono barzellette per bambini, è come Disneyland, Babbo Natale, le renne, la slitta, va bene. Ma come, noi dai. Ci vogliamo che... ma cosa c'è di magico? In Italia non c'è... Ma no, ma cerchio c'è magico... poco di tragico, il resto fa ridere e di magico la niente. La Pascale esiste, la ha fatto un'intervista al Fatto Quotidiano. Vuoi che la Pasquale sia il cerchio magico? Ha fatto ma l'intervista l'hai vista anche ma tu, ho visto no? L'intervista, ma non è magica, è un'intervista, è una persona che... Ma lo tengono sotto lucchetto, dai, lo tengono sotto. Ma chi lo tiene telefonate filtrate e tutto, dai. Ma filtrate da controllo chi? Di chi va, di chi più parla. Nessuno che le filtra, chi le filtra? Appunto, perché l'hanno fatto fuori tutti tranne loro. Prova a telefonare adesso a Palazzo Grazioli a Roma, secondo me non ci filtra nessuno. Ma figuriamoci, se tu vuoi parlare con Berlusconi, ce lo passano subito. Almeno ci passano Toti, almeno Toti. Vabbè, Toti proviamo. Ma infatti Toti fa parte del cerchio magico. Ma quale cerchio magico? Toti è uno come me che ha fatto il direttore del giornale e adesso fa parte del cerchio magico. Io di questi suoi poteri magici non me lo accorgo prima, altrimenti gli avrei chiesto i numeri per giocare il Super Enalotto. Un attimo lui... solo che c'è il traffico, torniamo Paolo Liguori. Vai. Sono tempi duri. Le zanzare di casa mia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripiedi a titolo personale, prego. Grazie Presidente, breve e circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria coinciso, preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Oh, secondo me Baldelli fa peggio, perché... correggendo no. Dice coinciso. Ma gli è sfuggita. Ma sa che si ha detto coinciso, conciso. Ho capito, sì, ho capito, ma come di come uno dice perché secondo te invece Grillino è ignorante in partenza. Sì, questo se lo dico io. Guarda, Baldelli fa un lapsus tra conciso e coinciso, certo. Può scappare anche a me. Mentre ma l'altro circonciso e conciso non è un lapsus. Quello è una capra. È una questo capra. Diciamolo ancora. Dai, siete coalizzati contro i Grillini, ma dai. No, ma per carità, che allora, è gente anche simpatica. La circoncisione è una cosa che si studia e che si studia, fa in alcuni si casi. Si studia a scuola. Parenzo, chi la fa, la io fa. Ti chi ricordo, non la fa, la studia. Ti ricordo, Parenzo, che tu hai detto che Grillo ha mandato in Parlamento della gentaglia. Te lo ricordo, te lo ricordo. Mi pare che tu l'abbia mandato l'audio abbondantemente. Si sono visti gli effetti, allora, ma non solo. Poi diremo qualcosina in più nella seconda parte di questa trasmissione. Allora, voglio segnalare che anche la CGIL prende 25.000 euro attraverso la signora Carla Cantone. Vergogna, vergogna. I sindacati siedono. Ma nel per non fare un cazzo! Oddio, fai risentire. Ma certo, ma dai, lo sappiamo benissimo. Giovanni Centrella, un altro sindacalista, 25.000 euro, dai! Ma certo che è una truffa, ragione Liguori, no, è una truffa. No, la truffa è lì perché legalizzata. Se invece di Angeletti ci fosse stata la Camusso non gli avrebbero mai detto ma lei prende anche lei 25.000. No, ma è sicuro, è sicuro, no, è sicuro. Io non ho mai visto la Camusso trattata come Angeletti, né Angeletti. Vabbè, Angeletti era magari per caso ospite lì a Piazza Pulita. Vabbè, ma tu la dici Camusso l'hanno scelto apposta. La Camusso è spesso per caso ospite da qualche parte e gli dicono sempre: "Ah, ma questo Renzi", e lei dice: "Questo Renzi è pericoloso, questo Renzi non ci convoca". Questo Renzi forse non ci vuole neanche. Ma stai a vedere che sei diventato 25.000 euro. Ma sei renziano, sei diventato renziano. Io sentiment renziano, non sono renziano. Ma come sentiment renziano? Eh sì, perché quando uno dice adesso mi scontro con i mandarini, la casta della casta. Sì, bisogna vedere casta. Se è vero poi, eh. Io penso che sia pure vero. Berlusconi lo diceva, non faceva mai nulla. Vabbè, dai. Ma il fatto che dice parlo alle famiglie e non a Squinzi, sì, e alla Camusso, che quello non è merita buono. Un applauso. Quello, non sì, è come le pale eoliche di Sgarbi. Quello ma è vero, già, merita ma un applauso. Io già sono in standing ovation. È vero. Con le pale quando dice, con quando dice sono contro le corporazioni, a favore delle famiglie, contro Squinzi e la Camusso. Un applauso. Merita un applauso enorme. Fagli partire gli applausi finti. Fagli sì, facciamo gli applausi finti. Finti. Siamo facciamo sempre su Radio 24. Facciamo questo Radio 24. Applausi finti. Vabbè, ma guarda che quando anche se è contro Squinzi, qual è il problema? Non abbiamo... è contro no, Squinzi. Ma ho detto che di... oggi è una sono d'accordo anch'io su questa cosa. Non che è dice contro Squinzi. Di superare la concertazione. Sono d'accordo anch'io. Di vabbè, io poi voglio capire una cosa. Però torniamo poi alle cose serie. Però torniamo a Totti. Ora ci torniamo a Totti. Ma quando Renzi dice non ci deve essere un dirigente di un'azienda di Stato che guadagna più del Presidente della Repubblica, ma che gli vogliamo dire? No, ma su quello non ma sono come, d'accordo. Ma che gli vogliamo? Sto parlando di un'azienda di Stato, non di un'azienda partecipata in parte dallo Stato, di tutti i, perché vabbè, voi non avete fatto sei bene più renziano di, le divisioni sei più renziano tra di le renziani aziende. Sei più renziani di quelli del vabbè, PD tu di uno di torniamo Toti, non ha poteri magici, non è andato con Berlusconi per fare il cerchio magico, non gioca né col cerchio né con ma la scusa, corda. Ma perché Fitto e Scajola non si devono candidare? Spiegamelo tu. Perché non si devono Scajola candidare? Prendono le preferenze loro. Hanno i voti, perché non si devono, perché ma non si devono candidare? Per Fitto e Scajola sono due problemi diversi. Fitto è parlamentare e non capisco perché si debba candidare. Ma che significa? Ma dai, è una buffonata questa roba qua. Dai. Invece Scajola, che non è parlamentare, e ha le preferenze. Non lo sappiamo. Sembra? Beh, sembra. Sì, non, sì, lo, sì, non, sì, lo sa- non lo sappiamo. Le preferenze lo sappiamo dopo vabbè, sono allora state date. Ecco, Scajola è un problema di opportunità che naturalmente Berlusconi, non Toti, ha sondato, cioè? E si è accorto che ci sono molti italiani che dicono per i magistrati questa cosa della casa non sarà reato, però comunque resta una cosa per gli italiani non va bene misteriosa che uno paghi una casa a 600.000 euro al Colosseo, perché io pago, ho pagato per la mia casa tre volte tanto in un quartiere molto più periferico. Se non se ne è accorto ed era pure ministro, diamogli il tempo di riflettere, magari alle prossime cioè tu mi stai dicendo che, che Berlusconi sondaggia la mano tutta la campagna elettorale su questo caso e hai già perso metà del tempo a spiegare Scajola invece di spiegare l'euro che tu prima dicevi va spiegato. Allora tu mi stai allora, dicendo che Berlusconi sull'Europa oggi tu non mi vado a infilare dentro Scajola, faccio una campagna sull'Europa. Se io mi trovo Scajola in lista e per metà del tempo sono costretto a dire ma guardate che una brava persona, garantisco io, è stato assolto. Cioè secondo lei gli italiani si ricordano questa cosa della casa ancora come una cosa controversa, come una guarda, cosa gli italiani sulla casa si ricordano tutto. Se tu gli metti dunque Berlusconi mettendo solo tasse sulla casa. Ma Berlusconi ha fatto sondaggi su questo? Sì, ha fatto sondaggi e risulta che Scajola non sarebbe visto con favore e non porterebbe preferenze. Ma manco quando uno è stato assolto, ma ti pare normale una cosa ma del genere? Non è un ragionamento, ma non è un ragionamento di, ma non è ragionamento se sei assolto o non sei assolto, ma io mica ho mai condannato Scajola, io l'ho sempre assolto anche quando ho però, capito, un'altra cosa prima del giornale radio, Paolo. Porta più voti Toti di Scajola, insomma. Ma non è che porta voti, nessuno porta voti. Prende più voti. I voti vanno dove trovano una cosa credibile. Meglio Totti di Scajola. È meglio uno fresco che non conosci di uno che dice certo. C'avevo la casa al Colosseo e costava 600.000 euro. Ma perché la gente dice, ma 600.000 euro de guarda che ti querela, eh. Guarda che ti querela. Te lo dico che ti querela. Ma non mi querela nessuno, ti perché querela. Io non sto parlando di cose penali. Da me deve venire uno e dire... Tu non ma perché, scusa, un attimo, abbiamo il giornale radio. Paolo, perché la Pascale deve parlare di politica in interviste ai giornali? Me lo spieghi? Ma perché la Pascale ha diritto di parlare di politica? L'abbiamo stabilito per moglie, i preti e per i vescovi. È la moglie di Cesare, però. Ma secondo te, la signora Pascale, cittadina italiana, non ha diritto di parlare ma di politica? Sì, perché capito, la moglie diceva ma di quale la moglie, Cesare. Ma la moglie di Berlinguer, ma la moglie di Berlinguer parlava di elezioni, ma la moglie di politica, di Berlinguer no, aveva altri interessi. Io mica non me la parlava la moglie di giornale radio. Ma nemmeno mi avrei dato addosso se avesse parlato. Giornale radio. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, hey, hey. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripiedi a titolo personale, prego. Grazie Presidente, breve e circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria coinciso, preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Prego. Poi stava sparando qualcosa su Confindustria, Parenzo. Stava per sparare su Confindustria. Capirai. La domanda è, la presidente Boldrini se ne sarebbe accorta? Perché Baldelli se ne è accorto. Dai, perfido. sempre a fare polemica così. Perfido Liguori. Perfido. Allora, la mia domanda è questa. Dimmi, qual è la se domanda? Se ne sarebbe accorta? No, sessista avrebbe detto, sei sessista, circonciso. No, ma no, non sapeva che non si riferisce a sessi diversi. Quello parla di cose che dovrebbe sapere come uomo. Vogliamo fare i conti in tasca a questo famoso CNEL? Allora, il presidente Marzano, che è persona di Forza Italia, è stato uno dei fondatori, credo, di Forza Italia all'epoca, sì, eccetera, 94, prende 216.000 euro al mese per il CNEL che non serve a una beneamata. Mazza, 216.915 meno di quasi tutti quelli che hanno altri enti che non servono meno una di Moretti ma... meno di Moretti un quarto di Moretti. Beh, ma un Moretti... quarto di Moretti è già tantissimo però, quarto Moretti, di Moretti. Però attenzione Moretti di tutti gli stipendi che avete nominato in questi giorni e che avete ricordato non è il più inutile, non è il più dannoso, no. Allora, perché è uno che prende la metà di quello che c'era prima di lui, che si chiamava Catania, come no. Che nessuno si ricorda, che è andato via con una liquidazione di 8 milioni dopo aver sfasciato l'azienda e volevano addirittura mandarlo all'Italia. E poi no? Non c'è andato. Per c'è... fortuna. Ecco, allora appunto. È andato a Milano a fare alla altre TN cose. Sì. Allora, Marzano, CNEL, oltre a prendere 216.000 euro, 915, prende anche 76.288 di pensione universitaria. Beh, cioè prende la pensione universitaria che ha diritto di averla. Ho capito, sarà giusto, però cumula la pensione a 216.000 euro di compenso. Si potrà dire o non si potrà dire questo qua? Si deve dire. Ma le paga le tasse su questi 290? Beh, sono lordi, più sono 70. Lordi, certo. E allora lordi. Se le paga le tasse... No, ma certo, certo. Ma ti voglio dire una aspetta, cosa. Aspetta, il monte stipendi della presidenza tra portavoce, segretarie, consulenti, eccetera, il monte, ci sono altri 250.000 euro di stipendi lordi, cioè oltre ai 250 però, però per il CNEL è troppo, se ogni cosa, io lo dico anche agli ascoltatori della Zanzara, se ogni cosa è uno scandalo, lo scandalo finisce per tutti. Beh, dipende. Allora io vi dico una cosa che è uno scandalo, che ci occuperemo anche del CNEL, ma in Italia ed è l'unico caso al mondo, quindi è uno scandalo, ci sono 7.700 società partecipate dagli enti locali. No, 7.700 società partecipate non ci sono da nessun'altra parte del mondo, non può esistere. Allora, per esempio, il Comune di Roma ha come partecipate l'ACEA, l'ACEA che è la società dell'acqua ma del gas ma di Roma. Il presidente dell'ACEA guadagna 1,6 mi pare. Ma torniamo alla cosa, alla sostanza, tu che sei uomo media, capito? Guadagna il doppio di Moretti, certo, che fa le ferrovie. Toti gliela fa o no? Secondo me gliela fa. Gliela fa. Ho visto l'ufficio di presidenza, Toti c'era, Santanchè no. Sarà per questo che si è arrabbiato. Che vuol dire? Ecco. Non lo so. Allora, questo che si è arrabbiato chi? Feltri? Perché Feltri ha fatto sta sparata dicendo, perché vogliono cacciare Sallusti? No, perché per una volta che Berlusconi ha preso una decisione, ha cacciato la Santanchè, diciamo. No, ha cacciato la Santanchè a occhio. Ha ridimensionato la Santanchè. Beh, insomma, chi avrebbe detto l'altro ieri che la Santanchè in un ufficio di presidenza veniva consultata così e non aveva diritto di voto? E invece per dire... Ma hanno fatto bene secondo te? Non ha ridimensionato la Santa comunque Chiesa. L'ha presa, la decisione l'ha presa Berlusconi. Voi mi chiedevate prima perché secondo te l'ha presa, allora, Berlusconi? L'ha presa che Berlusconi? Non sopporta più la Santa Chiesa. No, diciamo. Non interessa se la decisione è giusta o sbagliata. A me interessa smentire, confutare l'idea che Berlusconi sia un poveretto circondato dal sabba delle streghe. Non lo so, però nel è circondato, bosco, è che circondato. Non prende decisioni, e questo viene detto nell'unico giorno che prende una decisione importante. Ma che decisione? Ma quando non solo mai? Una, ma anche l'altra di cui mi chiedevi prima, Scajola e Fitto, se non saranno candidati, ricordatevelo bene voi che sentite la Zanzara, sì, non saranno candidati perché l'ha deciso Silvio Berlusconi. Tanto saranno non candidati. Il sabba delle streghe che gli dice il Silvio, cerchio magico Silvio, esiste. Il c'è Silvio, Silvio. Secondo me esiste il cerchio ma magico. Non c'è niente di magico, esiste. Ma nemmeno Bossi. Erano quattro sfigati con Bossi. Ma come quando erano esiste quattro sfigati? Il cerchio magico. Comunque esiste, se era il magico, cerchio non magico lo facevano ammalare. Invece non è stato capace di nessuna magia con Bossi. Non c'è cerchio magico in Italia, non c'è nulla di ma magico. Ma come no? Ci sono alcuni episodi tragici. Tragici. Vabbè, un attimo solo, magici, che abbiamo già tragici. Abbiamo TG3. Sentiamo l'unico TG3. L'unico TG comunista che è rimasto. TG magico, ecco TG magico. Sentitelo. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Dalai Obama avverte gravi conseguenze per la Russia se continua a minacciare i vicini. La NATO è pronta a difendere gli alleati in caso di attacchi. Renzi al lavoro sul Senato, titolo quinto, in commissione a Palazzo Madama, maggioranza battuta due volte sulle province, riforma da approvare entro domani. Banca Italia, per tagliare il debito pubblico non servono manovre ma crescita ed investimenti. Poletti, il 2014 sarà ancora un anno di grande sofferenza. Madia nella pubblica amministrazione, prepensionamenti per assumere i giovani, via al tetto agli stipendi dei manager. Moretti, vediamo se Renzi saprà convincermi. Dopo aver nominato l'ufficio di presidenza, Berlusconi blocca la successione di Magico, ci sono solo io. Poi difende Putin, avventato, escluderlo dal G8. Dolce e Gabbana sono dei creativi che pensano in grande. Al processo d'appello per evasione fiscale a sorpresa, il procuratore chiede l'assoluzione per i due stilisti. Dopo la decisione del governo malese di chiudere il caso dell'aereo scomparso 18 giorni fa, esplode la rabbia, la disperazione dei parenti e dei passeggeri. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Oh, evidentemente Berlusconi o Liguori sapeva quello che avrebbe detto Berlusconi oggi di Magico, ci sono solo io, oppure Liguori parla come Berlusconi, non oppure, so qual... oppure pensa che veramente che di Magico ci sia solo lui. Ma attento alla frase, Giuseppe, perché la seconda parte della frase è ancora più seria della prima, cioè? E cioè è da pazzi escludere Putin dal G8 dopo che abbiamo salutato come un evento quello della pacificazione d'accordo mondiale, e includere la Russia, noi, ma non solo, ma noi italiani, per fare un piacere a Obama, fischiare Obama domani, no, ma assolutamente, ma noi italiani, per fare un piacere a Obama, l'anno prossimo lo passiamo al freddo e al buio nelle nostre case, al freddo e al buio, noi non staremo al freddo e al buio, perché Putin non sarà come Obama capace di rappresaglie. Tutti figli di Putin, no, siete. Però... siete figli di Putin, no, tutti. No, figli di Putin. Ma come figli di Putin? Figli di Putin. Ma meglio figli di Putin voi che figli di Zocola, insomma, no, ragazzi. Ma, ma qui non si scherza. Ma dai. Putin a difendere, no, a difendere gli americani ce l'hanno con Putin. Gli americani ce l'hanno con Putin. Ma tu preferisci perché Putin a Obama? Afferma... Tu preferisci Putin in questo a Obama? Momento, certo. Cioè, il democratico Obama. Ma anche il Papa Francesco preferisce Putin a Obama. Quando Putin ha detto... Ma che ne sai tu di Papa Francesco? Quando Putin ha detto... Quando Putin ha detto fermatevi in Siria, fermatevi! Sei un figlio fermatevi di Putin! No, io Liguori sono... è figlio di Putin! Sì, figlio di Putin! Beh, d'altra parte no, è tornato al comunismo. Esatto. Americani che volete portare la guerra in Siria sconsiderata, Francesco ha detto... Eh sì, ha ragione Putin. Vabbè, adesso lasciamo perdere Putin. Ultima cosa, ha fatto bene a estromettere, a marginalizzare, a mettere un po' da parte la Santanchè Berlusconi, perché questo è uscito fuori. Sì o no, Liguori? Non lo so se ha fatto bene. Vabbè, dai, sei contento, sei contento perché sei amico di Toti. Perché sei amico di Toti e sei contento. No, io sono amico di Toti. Certamente, se avesse estromesso Toti, io avrei detto... Ma che estromesso Toti? Ha messo adesso? Come no, ma se l'avesse estromesso, io ti avrei detto, senza peli sulla lingua, ha fatto una sciocchezza. Vabbè. E forse l'hanno influenzato male. Ma siccome non ha estromesso Toti, ma lo ha continuato... No, non l'hai stromesso. Ma ti credo, anzi, che non l'hai stromesso. Beh, bisogna mettere quelli che c'hanno i voti. Scajola c'ha i voti. Ma i Fitto c'ha i voti. Italiani, nessuno c'ha i voti. Metà degli italiani non va neanche a votare. Comunque, 5 Berlusconi. Di ridare fiducia alla gente. 5 Berlusconi per 5 circoscrizioni. Questa è la mia. Appoggiamo. No, ma queste sono stupidaggini. Ma che c'è? Da cinema muto. Ma quale cinema muto? Attenzione, italiani, non vi fate fregare perché dicono cinema così. Muto. Voi scrivete Berlusconi sulla scheda e vi annullano la scheda. Ma non è pochi che vanno a votare. Qui, dipende se è candidato, guarda, sì, se è candidato qui, un figlio. Cruciani, no, dice, Cruciani dice in ogni circoscrizione, lo so quello che candidiamo dice. Un Scimmiotta Berlusconi. Feltri che no, dice veramente lo dico prima Berlusconi io. Pure per la CEA, pure per il gas, la luce, l'acqua. Io dico questo: se non sì, appoggiamo Renzi, sì, nella lotta contro i mandarini di Stato, ma quali mandarini? Noi non portiamo gli italiani a rivotare. Vabbè, non vanno a votare. Vabbè, ciao. Invece, ciao Paolo, ciao. Te saluto, ora me ne vado. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Le zanzare, yeah. Si sa che Cruciani ha una schiera fortissima di signorine che si intrattengono con lui, ed è la cosa, ed è l'unica cosa che ti invidio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripiedi a titolo personale, prego. Grazie Presidente, breve e circonciso, ma secondo voi perché Confindustria preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Prego. Da pizzicato ci puoi anche querelare, puoi portarci in tribunale, noi scopriremo nuove zone da colpire. Eccoci qui, fra poco, tra qualche minuto, caro David, ti presento un grandissimo ospite che abbiamo qui negli studi della Zanzara a Milano. Molto bene, bella questa staffetta Roma-Milano, bella. Bella, la facciamo sempre la staffetta, che novità c'è? Non c'è nessuna novità. No, ma ricchezza, ospiti qui, Milano, Roma. Ti autoincensi. Bello questo. Però, ascoltatori, Giuseppe, provincia di Caltanissetta. Sì, buonasera. Dica. Buonasera. Ah, io volevo intervenire a proposito della trasmissione di ieri sera di Sgarbi. Di Parenzo. Sì. Parenzo ha ironizzato così, in modo così, come posso dire. Ma non ha ironizzato, penso gli sia piaciuta Piazza Pulita ieri sera. Ma ha divertito molto, piaciuto. Sì, l'ho sì, però ha ironizzato su Sgarbi. Se Sgarbi ha quel carattere lì che è un po' accalorato quando parla di cose che effettivamente lo hanno un po' ferito. Io mi riferisco a quando lui era, io sono siciliano, no? Sì, però basta con questa storia di cose. Ma non ne posso più di questa storia di Salemi. È l'unica cosa che non posso sentire quando parla Sgarbi. Hanno cancellato il comune di Salemi, hanno commissariato per mafia il comune di Salemi. E basta, se ne faccio una ragione. Allora, poi dice che quello che l'ha commissariato. Poi dice che quel. Così, guarda, così. Io non lo so com'è. È da commissariare tutta l'Italia, vede che succede in Lombardia. Sì, ma non me ne frega niente a me ormai di questa vicenda. Io lo dico con affetto anche a Vittorio ogni volta che lo vedo. A me di questa vicenda di Salemi. Parenzo che ride così. Ma perché Parenzo non può ridere? Non ho capito, non può ridere. No, che come spalla Cruciani, come spalla tua la vedo un po' bassa, ecco. Vabbè, adesso basso e basso, questo perché basso, è un po' bassetto, sì, fisicamente bassetto, è vero, e bassetto, questo. Bassetto e bassetto. Questo è vero. Va bene, Antonio da Milano. Vabbè, ho capito. Giuseppe, allora, ho capito. Totò e Peppino, che ho una spalla bassa. No, Totò e Peppino, adesso Totò e Peppino sono un esempio altissimo. Lei mi sta facendo un complimento perché Totò e Peppino sono è un esempio magnifico, ma non siamo a quell'altezza, siamo due umili così lavoratori della radio italiana. Antonio da Milano. Antonio, vada. Sì. Sì. Sì, pronto. Sì. Sì, ciao Cruciani, sono Balbo Antonio. Balbo Antonio, niente, chi sei? Italo Balbo forse. Balbo Antonio, che vuol dire? Lei dice il cognome prima del nome. Balbo forse Antonio. È parente di Italo Balbo. Quindi di fronte c'è una persona che nel rapporto con gli utenti, nel rapporto con la gente che chiama, ha fatto la sua grande fortuna e in parte anche sfortuna. Per cui capisce, perché sorride, capisce cosa significa questo dialogo. Fammi pensare, questa chi lotta può essere. Adesso poi te la presento fra poco. Barbara Spinelli. No, ma che c'entra Barbara? Adesso no, tu chiedo. Fai la solita tiritera perché, no, chiedo, perché chiedo. Dici hai invitato un intellettuale. No, non è un intellettuale, ma è una persona molto più famosa di tanti intellettuali. Politico, italiani. Forse, no, non politico. È un politico, no, no, penso che non abbia intenzione un di fare attore, politica, un'attrice. Dopo quello che è successo. No, intanto fammi sentire questo Balbo Antonio. Antonio Balbo, Antonio dica. Sì, sì, sì. Niente, io volevo dire solo questo, tutti questi qua qua qua che sì. parlano, parole. Sì. Ma basta, ma servono chi? I fatti in Italia. Bravo, tutti i fatti sarebbero quelli di eliminare. Io adesso mi accanisco col CNEL perché è quello citato da Renzi tra gli enti da eliminare. Io ho qui di fronte tutte le cifre del CNEL. Perché ieri Angeletti, ho visto una scena impressionante a Piazza Pulita con il segretario della UIL fare una figura barbina, non sapeva nemmeno di prendere 25.000 euro all'anno, che sono pochi naturalmente in rapporto ad altri stipendi della pubblica amministrazione, di dirigenti della pubblica amministrazione. Lui non sapeva nemmeno di prendere questi soldi per non andare mai al CNEL, e questi soldi vengono versati tranquillamente al sindacato, cioè girati al sindacato come se il sindacato ne avesse bisogno, capito? Boom, con un giro così rapidissimo arrivano al sindacato e lui dice adesso li restituiremo 200 centesimi ai cittadini. Ma di che parliamo? Bisogna cancellare queste robe qui con un tratto di penna, toc, sì, e ancora stanno ragionando quello come si fa il CNEL, le consulenze, cancellare. Chi c'era, Antonio? Bravo. Bravo, parli bene, basta. No, parlo bene, ogni tanto sì, ogni tanto. No, sempre. Vabbè, grazie. Leonardo da Roma, Leonardo. Buonasera. Dica. Intanto volevo entrare sul discorso del cerchio magico di Berlusconi. Sì. Io, secondo me, ogni uomo importante, segretario di partito, ha un cerchio magico. Bisogna vedere da come uno ha... Cioè, dice, ha il suo staff di fedelissimi, ha il suo staff, fedelissimi, eccetera. Che impermeabilizzano la possibilità di avere contatti verso l'esterno. Per cui se si sbaglia la pietra di costruzione, si ha una falsa o falsissima valutazione. Che cosa sarebbe la pietra di costruzione, scusi? Cioè i collaboratori reali, di spessore, che non hanno paura delle ombre. Un uomo come Berlusconi, voglio dire, di cui ancora io ho 60 anni, sono un barone universitario. Un barone pure, lo dice pure di essere un barone. Sono un barone universitario. Cioè in che senso? È un barone, è uno che distribuisce clientela a destra e manca. Quanti figli ha assunto? Quante persone ha assunto all'università? C'è suo figlio, sua figlia all'università. Quanti inoculati? Il discorso è differente. Dico, ho detto questa frase proprio di provocazione, per dire che cosa? Che io ho conosciuto e continuo a conoscere gente di partito. Vada più veloce. Che, voglio dire, gente che non ha mai filtrato un'idea, gente che non ha, che ha impermeabilizzato fondamentalmente il soggetto. Ricordiamo che sarà... Sì, però uno si fa imbalsamare anche, non è che uno si crea un cerchio magico e gli altri lo tengono lontano dagli altri, eccetera. La realtà è che uno si fa anche, oggi Berlusconi ha smentito, di magico ci sono solo io, ma in realtà è vero che c'è una specie di cordone sanitario, come si potrebbe dire, David? Di cordone sanitario, di cintura di sicurezza, non di castità, ma proprio, no, di castità non credo, insomma. Cintura di castità, ho detto, Berlusconi anche non credo. Di castità? Perché la signora Pascale, tu dici, la vigila signora Pascale e controlla vigila anche su chi quello, entra e chi esce, giustamente, sì, marca è vero, a uomo, è vero, come è si direbbe con termini sportivi, giusto. Sportivi che userebbe il signor. Eccoci qui. Come vogliamo entrare a presentare la signora Vanna Marchi? Buonasera. Buonasera a lei, buonasera come a tutti. Come sta? D'accordo, bene, grazie. D'accordo. Oddio, questa ha iniziato. Ma non lo sai fare, come lo sa fare? Cruciani è un cretino, d'accordo. Sì, tutti sono d'accordo. Come lo fa, signora Marchi, male? Ma chi è? È Parenzo, lo sa, David Parenzo, la mia. Ciao. Come stai? Gli unici marchi che diciamo sono resistiti all'euro. Bella questa, puttanata. Quanto ci hai pensato di questa puttanata? Ma veramente. Gli unici marchi. Guarda che ancora c'ha lo sbaglio. Dimmi. Senti, carissimo. Dimmi, cara. Tutte le volte che tu eri in televisione che non avevi pochissimo ascolto, poi quando ne volevi un po' chiamavi Vanna Marchi e figlia. Ma fanculo, guarda. No, ci vai tu. Detto con rispetto assoluto, no, però. No, ci vai e tu che forse sei piatti. Abituato. E partiamo subito piatti, cara la mia Anna. Che hai ultimamente sei Stefania abituato, nobile, mi Stefania sa. Stefania Nobile. Ma scusa, in che senso? In che senso abituato? No, lei veniva dai. Ma mi dice a me va fanculo, ci va lui. No, ma è abituato perché lei sospetta c'è una marchia che sia omosessuale, Parenzo, no? No. Beh, non sarebbe mica quello il suo male maggiore. Ah, ecco. Secondo me ne ha dei più grossi, quello andrebbe bene, non è quello. Esattamente. Ma perché ce l'hanno tanto con te? Perché ce l'ha Marchi? Io ce l'ho invitate. No, io invece venivano spesso ospiti da me a Iceberg. E allora qual è? Che cosa avete? Che cosa avete? Ma era sempre cattivo, colpevolista, in galera, che diceva, in galera, in galera. Sai come diciamo noi a Bologna? Come dite? Chi le cinen le caicaden. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che i piccoli, molto molto piccoli, sono terrificanti. Sono cattivi. Capito come il discorso? Cara amica mia, però, qui sul banco degli imputati non c'è il sottoscritto. Non l'ho mai venduto sale io. Hai capito? Stai attento, carissimo, sale, perché nella vita, non l'ho mai venduto. Cara amica mia. Qualche processino ce l'hai anche tu, Davide. Fammi devo dire. Carino. Ma no, qualche processino ce l'hai anche tu. Nessun processo ce l'ho io. Ma li avrai, non ti preoccupare. Io non ho nessun processo. Io ho avuto una diffamazione. Quanti anni hai? Quanti anni hai tu? 37, tesoro. 37. Pensavo 67, però d'onore, dai. Cioè, se riporta male, dici. Madonna mia, certe occhiaia che ho. Il mago do nascimento, quello sì, lì, No, no, carino. A proposito, che fine ha fatto? Non hai avuto più notizie del signor do nascimento? Purtroppo no. Come purtroppo? Lo vorrebbe rivedere, rincontrare? Volentieri, sì. Ma veramente? Certo. Io voglio bene Don Simetto. Sì. Sì, ti dirò che beh, pensa a te che cosa? Cioè, voglio dire, perché non posso voler bene Don Simetto. Anche qualcuno che vuole bene a te, figurati. Sentimento, ecco, sentimento pensa, vuole bene. Una che dice voglio bene al mago Don Nascimento. Caro Cruciani, permetti che mi costano un attimo. Ma perché? Senti una cosa, ma a te ti pagano per fare ste stronzate che fai? No, giusto per saperlo, giusto così tanto per. Ma quanto veniva? Un chilo di sale, quanto lo vendevi, scusami? Comunque sei ripetitivo. Ma non hai argomenti. Ma le dici da 40 anni, ne hai 37, sì. Le dici da quando eri un feto. Ma dicevi pianta, le stesse cose. Piantala. Allora, io dico una cosa, ma è vero? Ma veramente vorrebbe incontrare Don Simetto? Beh, perché no, cioè voglio dire, non è che... No, mi dispiace perché io... Ma non ho avuto proprio più notizie, mai sentito per telefono, mai? Purtroppo no. No, mai. Questo mi dispiace. Ma che cosa hai da dire tu? Ma che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Se lo sapessi, allora ce voglio vivo, dire. Almeno, è vivo, secondo lei? Spero proprio di sì. Che ne so, magari. Che mestiere fa? Che mestiere fa? Ma se non so dov'è. Ma Striscia l'ha trovato, no? Striscia l'ha trovato. Non mi ricordo che faceva. A proposito di Striscia, signora Vanna Marchi, ma lei, se avesse di fronte il signor Ricci o quelli che hanno ideato tutte le inchieste su di voi, che hanno portato poi ai processi, alle condanne, un premio va dato a Ricci. Diceva Madonna, Renzi. Quanto sei sgodevole. Ma altra cosa che diciamo noi a Bologna, sgudava. Cioè, che vuol dire sgodevole? Proprio. Sofferto per colpa ma piantala. Ma chi ha sofferto? Che sono tutti in televisione. Sai chi è che soffre in questo momento, chi ascolta te e sai chi soffre? Stasera tu, che sarai la spalla di Cruciani tutta la vita. Pensa un po' quanto soffri tu. Quello che vender sale, dai, guarda, cammina, ringrazia Cruciani. Andiamo avanti. Io dico una cosa: se lei avesse di fronte questa signor Ricci, conversazione, sì. Che cosa farebbe? Niente. Cosa devo fare? Pensa che sia una brava persona, un professionista, fa il suo ma mestiere, io non penso niente, perché per me, sai, io ho delle persone. Dipende come si presenta lui, cioè non... No, ma se lei vuol dire, cosa pensa di Striscia la notizia di Ricci? Tutto il male possibile? Non penso. No, non penso. Pensare ho già pensato abbastanza, ho altre cose da pensare adesso. Adesso ho ben altre cose da pensare, carissimo. Ma comunque sono state la vostra rovina, Striscia. Ma sai, come mi vedi, mi sembra che sono propriamente così rovinata. Vabbè, ma rovina una parte della mia vita passata in carcere, pene, risarcimenti e cose di questo tipo, comunque sono una rovina nella vita di una persona, no? In ogni caso. Cosa vuoi, cioè, sai, poi il mondo gira, sai com'è. Ma non ho capito, lei ha detto prima una cosa, non c'è nessuno che ha sofferto per causa nostra. Lei non ha mai chiesto scusa? Allora, uno chiede scusa quando ha delle colpe, quando non ne ha non lo fa. Niente. Lei pensa di non essere stato di non essere assolutamente di non devo chiedere scusa a nessuno. Cioè, nonostante le condanne definitive non chiede scusa a nessuna persona, a nessuno famiglia, proprio, no. Per cui non c'è nessuno che ha sofferto a causa vostra, diciamo, cosa sua in particolare. A causa mia no, di sicuro. No, poi se hanno sofferto e non hanno preso un cachet, senti, magari tu che sei un cachet, un'aspirina. Ascolta, che piangeva, gente che ha tentato di suicidarsi perché ma deficiente. Ascolta, deficiente. Ascolta, guarda, io ti dico una cosa, se tu continui mia mamma si alza e se ne va, perché di processo l'ha già subito uno, hai capito? Ce lo dovrei, dove vado? Dove vado? saranno anche cazzettini sono cazzi miei, mi hai capito bene? Si aspetta che una domandina sulla neanche chiedere scusa alle persone che hanno fatto. Ma secondo te non è una questione di essere innocente. No, scusa Giuseppe, ma io parlo perché io sono venuta apposta. No, allora quando uno un processo l'ha subito, l'ha affrontato ed in galera c'è stata, basta. Allora secondo te uno spara in testa uno, chiede scusa e ha risolto così i suoi problemi? Io ho fatto una domanda, alla domanda c'è stata risposta e Parenzo dà un giudizio, punto. E basta. Allora io sono venuto in questo programma ed è la prima volta che parlo nella mia vita. Certo. Per rispetto a Cruciani. Bene. Se era per te ti mandavo a fanculo prima. Beh, mi hai capito? Onore, e adesso ti mando a fanculo e me ne vado. No, ciao. No, non esiste. Ma non ha detto nulla. No, ma non ha detto niente. Ha detto due stupidaggini. Neanche la soddisfazione. Ho espresso è un parere. Coso, ma ho espresso un parere. Mi fai fare quattro domande per fare questa intervista. Stai zitto un attimo. Fammi fare quattro domande, per favore. Esco dallo studio. No, ma non esci. Esco dallo studio. Ma non c'è bisogno che esci dallo studio. Scusa, non ho capito. Qui non stiamo a fare un altro processo alla Cina Marchi. Non stiamo facendo un altro processo. Nessuno ha fatto il processo. No, ma io non sto dicendo nulla. Io l'ho chiamata qui per rispondere a quattro domande su cosa fa quattro la vita. Benissimo. No, quattro domande, una serie di domande su cosa fa nella vita, cosa pensa di alcune cose che succedono in Italia in questo momento, punto. Il processo è già stato fatto, non ci sono stati fatti, le cose sono state dette, punto. Chiunque le può consultare dappertutto, su internet, servizi, eccetera, i pareri della signora Marchi, benissimo. I pareri di quelli che sono stati vittime o presunte tali secondo la signora Marchi, punto e basta. Non c'è bisogno di tornare sempre e comunque sulle stesse cose. Io non mi metto mai d'accordo con te su cosa dire e cosa non dire, però mi pare abbastanza evidente, no? È vero. E su, dai. Lei in prova ai servizi sociali, signora Marchi? Sì. In un bar? Lavoro al bar. Lavoro in un bar, questo sarebbe i servizi sociali. Sa che Berlusconi il 10 aprile avrà i servizi sociali, no? Beh, non lo so. Sì, avrà o i servizi sociali o gli arresti domiciliari. Lei mi dispiace. Le dispiace per Berlusconi? Molto. È molto legato a Berlusconi? Molto. Sì? Sì. In che senso molto? Mi spieghi che... Molto, lo stimo, è una persona che mi piace e... a me hanno tolto il diritto di voto, però se votassi voterei per lui. Sì, sì. Ha già votato per lui in passato, certo. Immagino, quando poteva votare. Sì. Adesso non può votare per quanto, fino a quando sarà finita la pena. Ma sì, però non... Anche Berlusconi non può votare, peraltro, lo sa? Non lo sapevo, no. Sì, sì. Mi dispiace. Siete nella stessa condizione. Vede Berlusconi l'Italia non può votare... Vabbè, l'Italia cos'è? Adesso le sentenze sono queste, le condanne portano al fatto di non votare. Non è che... Cioè l'Italia è stata ingiusta con lei, secondo lei? Beh, non parliamo di me, parlavamo di Berlusconi. Vabbè, però io chiedo, secondo lei l'Italia è stata ingiusta? Perché ovviamente se uno si sente innocente l'Italia è stata ingiusta. Sì. La giustizia tremenda nei suoi confronti è stata. Tremenda, sì. Ma adesso però si calmi, perché non è... No, guarda, se io sapevo che c'era sto piccolo stronzo, ti giuro davanti ma a Cristo... Ma lei lo sapeva! No, ma questo è un essere che non deve neanche camminare per strada. Ma adesso non esageri, ha detto un suo parere, secondo ha fatto me, ironie, ha fatto delle ironie su quello che è successo. No, lui non fa ironie, lui è proprio cattivo dentro. Io non l'ho insultata. Calmatevi, che sennò non andiamo avanti. Più lo nomini, più lo fai felice. Senta, secondo lei... Secondo lei, Renzi, qualcuno ha paragonato il fatto di essere bravo nel vendere il prodotto politica, no? Quello che vuole fare, a Vanna Marchi. È stato detto più volte in questi giorni. Ma mi hanno paragonato tante volte anche a Silvio, non è anche che... a Silvio, non c'è dubbio. Certo. Però adesso a Renzi. Adesso a Renzi. Ma Renzi è bravo a vendere le sue cose. L'ha vista la famosa presentazione del programma con le slide, eccetera. Sì, l'avrà vista. No, ma no, perché io sono ignorante, io sono contadino, non guardo queste cose. Ma figuriamoci. Io guardo le telenovelas. Ma non è vero, lei segue benissimo anche le cose della politica. Allora si ritrova un po' in allora, Renzi o no? Sì. No, bisogna portarlo da un sarto, farlo vestire un po' bene. Sì. E poi farlo dimagrire un 20 kg. Renzi! Certo. Ma è magro. Ma io veramente lo vedo da quando è in politica, lo vedo gonfiato. Si è gonfiato un po'. Dunque sì. Dovrebbe dimagrire ancora un po'. Sarto perché non si veste bene. Poi buttare via questo giubbottino alla Fonsi. E poi che so, poi non lo so. Poi so, non fa parte delle persone che piacciono a me. Ah, non le piace Renzi? Poco. Le piace solo Berlusconi in politica. Adesso solo Berlusconi. In questo momento Grillo le piace? Mi piace Brunetta. Brunetta le piace? E allora come facciamo? Ma come mai le piace Brunetta? Mi piace. Vabbè, ci sarà qualche motivo. È un uomo molto intelligente. Allora, io in un uomo, vede, io ormai ho un'età, però anche quando ero giovane, io in un uomo non guardavo tanto la bellezza, guardavo la testa. La testa. Il cervello. Lì è bella grossa, sì. Ma no, beh, insomma, Brunetta è un uomo intelligente, ma insomma... Però allora... torniamo a Renzi, è bravo a vendere le sue cose, come... cioè tra lei, tra Renzi e Bannamarchi, chi è più bravo? Beh, vabbè. A vendere. Ma cosa vuol che venda? Cioè, adesso dice che regala 80 euro in busta a tutti gli operai, ma dai. Cioè, sembra che gli dia, sai, la luna, il mondo, ma poi gli ridà lui di tasca sua, non credo. Ma no, cioè, non lo so. Comunque però non... è bravo a vendere, io non a vendersi, sono... è bravo o no? Non sono in grado di fare politica. No, di fare politica, però di giudicare come uno sa vendere le cose, sì, è stato il suo mestiere per anni. A parte l'abbigliamento, lei ha parlato dell'abbigliamento. Io credo, povera Bannamarchi, ancora carcerata ai servizi sociali, credo che lui durerà poco. Cioè? Ma no, ma non è... cioè... Manco come venditore, bravo. Dai, ma che cosa sta vendendo? Cioè, vende qualcosa, vende. No? Cioè, vende le sue merci, cioè, promette, fa. Allora, eccetera. Se l'hanno paragonato a Bannamarchi, è bravissimo. Sono stati 5 stelle, i 5 stelle. Vabbè, ma le hanno offerto i tornati in TV, è vero questa cosa? Verissimo. Chi ha offerto? Ah, beh, tante persone. Tante? Tante, è vero, sì. Ma pure Mediaset? Certo. In primis Mediaset? Anche. Ma perché lei dice di no? No, io sono un po' come Mina, sai? Cioè? Quando tu sparisci diventi un personaggio. Capito com'è? Però è il fatto che... Parenzo, ci sei? Sì, sì. Vabbè, dove adesso... va? E dove va? Adesso non fare, il timido. No, ma ascoltavo, però. Ascoltavo i giudizi che la signora che... Ma perché non può dare giudizi adesso? Sì. No, dare, ma no, truffa. C'è una persona che è stata condannata. La signora che per si truffa sente giudica. Sì, ma è innocente, d'accordo. Va bene. Ma perché uno condannato? Non ho capito. Che si sente innocente. Non può dare giudizi. Deve morire. Io deve stare carcerato. No, per me no, infatti. Nelle galere. Ha diritto anche all'oblio la signora Bannamarchi per quel che ha commesso, e su questo ma non c'è un dubbio, come qualsiasi altro. Tu sei l'unica proprio un cretino. No, sto insultando nessuno, ho detto che ha diritto all'oblio. Ma lei non vuole essere dimenticata, però, in realtà. Appunto. E secondo te ha detto una cosa bella? Appunto, sì, non imitare mia madre, perché guarda, proprio non te lo permetto. Per la condanna che avete ricevuto, per le condanne che avete ricevuto, avete il diritto all'oblio. Conosci tanta altra gente che ha pagato tutta la sua condanna? Presentamene uno. Dopodiché, presentamene uno. Pure alla domanda presentamene del signor dottor Giuseppe uno. Crugiani, alla domanda di Crugiani, che ha chiesto giustamente, giornalisticamente, vi ha chiesto se vi pentite. Vabbè, ho capito, non si pente perché io ho fatto una battuta. Ascolta, pentiti tu di essere al mondo. Dammi ascolto, dammi retta. E ringrazia chi ti ci ha messo a Canale Eccola 5. Ma perché se era per me, neanche le pulizie andavi a fare. Neanche le pulizie andavi a fare. Le lezioni di Bonton della signora Marchi e figlia, eccole qua. Ma sei tu che fai le lezioni di Bonton? Senti, ma non dovevo uscire dallo studio questo qua. Allora, esco io? Lei ha fatto il ricorso alla Corte Europea come Berlusconi contro il giudice Esposito, è vero? Sì, è vero. È vero, ma perché? Che le ha fatto il giudice Esposito? Beh, abbiamo l'avvocato qui, vuoi che te lo dica lui? Perché no, che avrebbe anticipato la sentenza secondo quanto riferito la giornata. Secondo lei perché... è vera questa cosa o no? Ma come non è vero? Ma abbiamo i testimoni, cioè come non è vero? Beh, che ne so, davvero, bisognerà provarlo, sì, no? Eh? Bisognerà provarlo. Ma certo, come tutte ma le certo, cose. Ma certo. E lei confida in questo ricorso? Cioè, come giudica in questo ricorso qua a Strasburgo? Come Berlusconi, peraltro, ha fatto la stessa cosa. Ma sai, Berlusconi ha fatto la stessa cosa. Berlusconi avrà più potere di Bannamarchi. Comunque sia, se la legge è uguale per tutti, io confido, sì. Ma come lo giudica questo magistrato, questo Esposito? Ma come devo giudicare? Sai, io non giudico più niente. Che cosa disse in questa presunta... Dice che Bannamarchi gli stava talmente sul cazzo che se la toglieva dai coglioni per 9 anni e mezzo. Così ha detto. Così avrebbe detto, avrebbe detto. Lei ci crede, però? Al 3.000 per 1.000? Al 3.000 per 1.000, addirittura. Non ha molta fiducia nella giustizia italiana, signora Marchi, mi sembra, no? Come faccio ad averla? Ce lo voglio dire! No, appunto, cioè... Anche, dice, persino un giudice come Esposito, la Cassazione, eccetera, se dice una cosa del genere siamo messi male. Veda lei. Chi può salvare l'Italia, secondo Bannamarchi? Chi può salvare l'Italia? Chi può salvare l'Italia? Solo il buon Dio. Berlusconi? Però si è stancato. Berlusconi? Beh, mio Dio... Berlusconi non vogliono che salvi l'Italia. Non vogliono. Lei resta profondamente berlusconiana, nonostante tutto. Io sì. Io non sono di quelle persone che cambiano bandiera, mai. Mai, eh? Mai. Che sguardo che ha. Hai visto? Ha uno sguardo, Parenzo, se fossi qua davanti ti avrebbe già incenerito. Avrebbe venduto il riso ai cinesi, figurati. Avrebbe venduto il riso. Vabbè, ti piacerebbe a te. Vabbè, non è una cosa negativa. Sì, basta, io non voglio tornare su quel processo, basta appunto non fare con le, diciamo, con le pressioni che fece lei. Che la mi dia un giudizio molto rapido su Bruno Vespa, come lo giudica Vespa? Non giudico. Ma come non giudica? Un giudizio sul signor Vespa. Ce l'hai in linea pronto a intervenire? No, non ce l'ho. Pubblicità, torniamo tra un attimo. Restate ancora, 5 minuti. 800 24 00 24. A parte che anch'io sono per l'eliminazione immediata di Parenzo. Tutti ce l'hanno con me, non sono mica una mosca. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Questo è Brunetta. Siamo qui, 800 24 00 24, studio della Zanzara a Milano, con Vanna Marchi e Stefania Nobile, che ringrazio di essere qui per questa prima intervista. David Parenzo in collegamento da Roma, ecco. Molto cattivo questa sera. No, normale. C'è stata una polemica furibonda, cioè Vanna Marchi si era alzata per andarsene. Però normale amministrazione, dai. Tu sei cattivo, loro pensano che tu lo faccia apposta e abbia un odio particolare nei confronti del signor Marchi. Avrà diritto di parlare o no? Ma assolutamente sì. Basta, punto. Ho diritto di dire che trovo scandaloso che dopo che una persona è stata condannata ancora oggi non abbia quella che i latini chiamavano pietas nei confronti delle persone che sono anche state ferite da quello che loro hanno fatto. Comunque non me ne frega più niente. Andiamo avanti, benissimo. Quindi gli piace Berlusconi. Hai qualche domanda da fare al di là di questo? Hai qualche domanda da fare? Di sicuro non piace a te Berlusconi, con la faccia che hai non ti può piacere Berlusconi. No, no, te lo dico io. Vede che lei mi dite del lei, vede che va sempre. Io non ti do del lei perché ci diamo del tu da 30 anni, quindi del lei stasera non te lo do. Io non ho mai insultato nessuno, siccome non ho mai usato una parolaccia. Ah, non hai insultato nessuno. Ascolta, dimmi, ti faccio una domanda a nome dei carcerati italiani che a me stanno molto ascolta su questo. Quali non carcerati? Scherzo, ok, dai. Cosa sai? Allora, secondo te italiani? Quando un so parecchio. Beh, più di te carcere, hai capito che so di parecchio più di te, sa sicuramente. Allora, no, ascoltami, io ho fatto un attimo la trasmissione in carcere quando ero ragazzo. Ma dai, va la trasmissione. Hai fatto il chirichetto con Don Abbondio. Ascolta. Sì, cara, quando avevo 20 anni tu vendevi sale. Ma hai capito? Quando io facevo le trasmissioni a Radio Carcere, io sono sicura. Vendevi sale. Silenzio. Tu hai comprato qualcosa da Vanna Marchi, io sono sicura. E non ha funzionato. Guarda, perché morissi oggi. Stai attento. Morissi oggi. Non ho che ci lasci i zampetti che li hai anche corti. Di queste balconate che vengono date in televisione. Mai comprato nulla. Però la domanda dopodiché non me l'hai difendo fatta il diritto fare dei baraccone. Non dopodiché, me l'hai guarda, fatta fare dirò la domanda. Una cosa a favore vostro, purtroppo. A favore vostro, purtroppo. Come oggi scandisco le parole. Allora, a favore vostro, dirò che tutto il problema che solleva il vostro caso giuridico, al netto delle pressioni che facevate su gente comunque in difficoltà che a un certo punto avrebbe ancora comprato qualunque cosa pur di salvarsi, che aveva un miliardo dopodiché sotto al letto, presentamene ancora. Dopodiché il tema basta. Vero è che se uno crede che quello che voi vendavate era sale, beh, qualche problema c'è, questo non c'è dubbio, cioè voglio dire. E secondo te i maghi hanno finito di lavorare in Italia? I maghi, chiamali come i vuoi. I maghi non facevano pressioni facendo il malocchio. Questo non è male. Non facevano il malocchio alla gente in difficoltà. C'era gente in difficoltà. Cosa farebbe in televisione adesso? Un attimo solo, Stefano. Ma chi? Lei cosa farebbe in televisione? Non faccio niente, come no, vede. Ma cosa farebbe? Cosa vorrebbe fare? Adesso proprio niente. Niente, c'è un canale YouTube. Finché non ho finito la mia pena non vado in televisione. D'accordo, ma dopo che cosa le piacerebbe fare? Ah, vedrò, perché sai io non programmo mai niente della mia vita. Però non è finita qui. La mia vita? No, la sua vita, per carità. Capirai! Cioè, Vanna Marchi tornerà in televisione. Allora, Vanna Marchi tornerà, ma non se n'è andata mai praticamente. Beh, perché non hanno fatto altro che parlare di Vanna Marchi in televisione. Hanno scritto libri, hanno allora fatto citazioni, cioè, allora eccetera eccetera. Ma tornerà più forte di prima in televisione? Perché no? Perché no? E chi può saperlo? E chi può dirlo? Ma a fare cosa, per esempio? Cosa le piacerebbe fare in TV? Vedremo. Magari faccio i tortellini, sai com'è? Si fanno tante cose. No, d'accordo. Ma c'è una cosa che le piacerebbe fare in televisione? Tante. Ma mica fare di nuovo le televendite, queste cose, non no, credo. No, non venderò mai niente in televisione. Ah, mai più niente? No, assolutamente. Guarda, ieri sera guardavamo per un attimo, perché poi vorrei fare un pezzettino di critica così. Il Grande Fratello, sì. Ed è una roba penosa, e ho pensato, una roba terrificante, e ho pensato, questa è l'Italia. Beh, allora che cosa ci stiamo aspettando? Cosa aspettiamo? Povero Renzi, anche tu, ma che cosa vuoi fare? Cioè, con l'Italia del Grande Fratello? Se qualcuno in Italia, e sono milioni, guardano il telefono, come cavolo si chiama questo qua? Grande adesso, Fratello. Allora tu mi devi dire, beh, ma come siamo combinati, ragazzi? Vabbè, ma come siamo messi? Quattro sgalettate con delle labbra canotto che sembravano copertoni delle automobili, e basta, quattro... Basta, ho finito qua. Beh, però vedo, ho ritrovato. Vedi, Parenzo, perché bisogna parlare per forza del processo? E ma no, ma da parlare abbiamo tante cose. Ma dai, abbiamo delle cose, ma devo stare a ascoltare il giudizio di Vanna Marchi. Beh, ma scherzi. Sulle signore del Grande Fratello, da una. Ma scherzi, da una che scherzi. Galilla non può guardarlo, ma Grande Fratello. Ma certo che può guardarlo, ma allora... avete dato dei giudizi come se quella fosse la trash televisione. Voi e il bue che date il cornuto all'asino. No, almeno della dignità ci vuole. Mi sa che tu di corna e ti senti parte in causa. Tutti i cinegni e i caicatene hanno le corna. Benissimo, la televisione italiana ha avuto sicuramente molto più successo di te e anche di me. Ah, su questo, guarda, più successo di Parenzo ce l'ha anche il Grande Fratello. Dammi, ascolta a me. Almeno non mi hanno mai indagato per nulla. E non è finita. La vita non è finita per te, carina. Vedrai, vedrai. C'ho il cornetto col mandolino. Te lo dice, calma. Vedrai. Allora, che cosa che non le piace in televisione in questo momento, oltre al Grande Fratello? Aldo Grasso. Chi? Pensa a te. Cosa c'entra Aldo Grasso? No, scusa. Cosa sta parlando Aldo Grasso? Ma tu non sai neanche che non sei all'altezza di Aldo Grasso. Cosa, ricordati. Cosa non le piace in televisione? Pensato che vede molta televisione, immagino. No, vede molta televisione lei, o no? Beh, insomma, qualcosa vedi. Qualcosa vedi. Che cosa è proprio, oltre al Grande Fratello, che cosa che non sopporta proprio? Beh, quando non sopporto giro canale, cioè non è che, capito? Non beh, è i politici in televisione, per esempio, quali sono i più bravi? I più bravi? Sì. Ah, per me sono tutti uguali. Hanno tutti una poltroncina carina, che però ti dico la verità. Sì. Mi scusi, che l'ho dato del tu. No. Dico la verità, che me la terrei stretta bene anch'io quella poltrona. Perché? Eh beh, chi non se la tirerebbe stretta? Cioè fanno bene a tenersi stretta la poltrona. E come no? Piace a tutti tenersi sta poltrona, ma piacerebbe anche a Vanna Marchi, non dico di no. Sì, cioè se fosse un... Ma tutti, ma chiunque, chi dice di no? È ipocrita. Certo. È ipocrita. Capito, Parenzo? Hai capito o no? Che bella rappresentazione dell'Italia. Sai come piacerebbe a Parenzo? Che bello. Oh, no, devono mettere uno scabellino, nominare, però. Ma non lo nominare. Allora io dico una cosa. L'affidamento le due gentili signore. Darebbe, che tutto consiglio, fuorché gentile, tesoro. Che consiglio darebbe a Berlusconi ai servizi sociali? Cioè, non sono certo in grado no, di dare... No, siccome lei li sta facendo, i servizi sociali. Di dare giudizi a Berlusconi. No, io, giudizi. Cioè, non è... Un consiglio. Sì. Per esempio, nel suo bar lo prenderebbe Berlusconi a fare servizio. Sarebbe stupendo. Magari. Ma... Berlusconi ai servizi sociali nel bar di Vanna Marchi. Ma io non ne ho dei bar, Ma sì, vabbè, dove... io non possiedo bar. No, cioè... di sua proprietà. Ecco, allora, no. Lei è sempre nullatenente come prima? Sempre nullatenente. Sempre nullatenente. Sempre. Certo. Sente Parenzo che dice certo. Vabbè, lo prenderebbe subito Berlusconi a fare i servizi sociali da lei. Sarebbe un sogno troppo grande. C'ha già tanti problemi, guarda, esatto. Figurati se si mette con questa che gli urla ogni giorno il chinotto! Il chinotto! Ma sei un poveraccio, il caffè! Sei un poveraccio, d'accordo, veramente. D'accordo. A me fai schifo, veramente. A me fai schifo, però a Bologna ti dico, si dice le mie fai schifo che compassion. Quindi fare schifo è meglio di compassione. Invece a me fa tanta pena. Però sei un poveraccio, veramente. Anche voi però insistete troppo su Parenzo. Ma è una povera cosa. Ma se io immaginavo una roba del genere, col cavolo che venivo qua. Che cos'era, un salotto? Dove si dice scusi signora Marchi, mi dà un però me la fai finire questa domanda? Me la fai finire la domanda? Qual è la domanda? Secondo te, David, quando uno è stato in carcere non ha più diritto di lavorare, non ha più diritto a parlare, non deve più fare niente, e chi ha detto non ha più diritto ad avere un pensiero? No, rispondi ai 56.000 detenuti, anzi, non a me. Rispondi. Io sono per il reinserimento dei detenuti. Sì. Tu sei per uccidere, tu sei un assassino. Quello che avete fatto voi, date a me dell'assassino. Beh, quando io sei un assassino da sempre il recupero dei criminali. Te ci farei un pensiero. Comunque recuperare ci farei un pensiero. No, sì, dai, dice, ammazzare sì. Io sono convinto di decidere di tornare in casa. carcere, ammazzo David. Ecco qua. Penso un po'. Su, ma bello, brava. In questo momento. Ma che belle personcine. In questo momento sono sicura che molti la pensano come noi. Ma che belle personcine. Vero o no? Mi segnalano. Mi segnalano. Mi segnalano che una volta. Fatto voi. Stai zitto un attimo. Mi segnalano una volta che lei si professò comunista da sempre, è vero? È vero, perché? È vero. Poi cambiò idea. Ma sai, i comunisti di una volta non esistono più. Adesso ci sono ancora i comunisti, secondo lei? Ma non quelli di una volta. Erano non meglio? Non hanno più ideologie. Cioè, meglio, era meglio il Partito Comunista di quel Partito Democratico, dice lei. Ma insomma, quando ero ragazza io, sì. Sai, io vedevo comunisti che ci credevano veramente. Oggi non, ma oggi non credono a niente, dai. Ma la gente non crede più a niente, dai. A niente, No. A niente. Comunque la tirata sul Grande Fratello mi è piaciuta. La tirata sul Grande Fratello, sì. Perché? Ho visto la Vanna Marchi, quella di un tempo, ma che guarda, prende una cosa di petto e l'affronta. Io affronto sempre, sempre. Anche quando dice che non si è pentita di quello che ha fatto. Non mi sono pentita, mio Dio, cioè di quello che ho fatto e di quello che hanno detto che ho fatto, perché sai, è molto diversa la cosa, eh? Allora, sì. Certo, mi dispiace se qualcuno ha sofferto per delle cose, però. Cosa vuoi fare? Lei pensa di essere innocente, cioè, mi sono fatta un sacco di galera, me la sto ancora facendo, cosa volete da me? Ma lei ha paura di tornare in carcere? Assolutamente no. No, assolutamente. Nella maniera più categorica, no? Perché? Ma qual è il ricordo peggiore di quegli anni di carcere? Qual è stato? Ai, ce ne sono tanti. Uno. Se un giorno vorrai, te lo prometto, cosa che io non prometto, cioè prometto solo se so di poter mantenere. Sì. Se un giorno vorrai, senza quello che interviene a dire delle grosse stronzate, sì. Io e te, sì. E vorrei che ti racconto tutto esattamente di cos'è il carcere, ci sto, altrimenti accetto qualche altra offerta. No, ma un ricordo terrificante, di una cosa terribile, sì. Una cosa terrificante, come faccio quando ci hanno separato? Certo, quella è stata la cosa più terribile. No, ma al di là della separazione da tua figlia, un ricordo di una giornata drammatica in carcere in cui hai sofferto molto, qualcosa che ti hanno fatto. Quando ho visto una persona che si stava suicidando e l'ho intravista attraverso la finestra e guarda, non mi ci fare pensare. È un ricordo invece personale di qualcosa che ti è successo anche a livello di corpo, anche a livello di salute in carcere? A me no. No, perché sei di ferro. Beh, qualcuno sicuramente avrebbe voluto vederci morire. Chi, ma... per esempio? Beh, parecchie persone. Come vedi, come proviamo di alzare la testa. Qual è qualcuno che era amico e poi non si è fatto più sentire? Beh, di amici ne avevamo tantissimi, no? E poi... Chi è rimasto, per esempio? Beh, qualcuno è rimasto, poi ne abbiamo trovati tanti, tanti, tanti che non sapevamo di avere, molto sinceramente. Parenzo, di l'ultima cosa, dai. D'accordo! Vedi? Lo vede? Vedi cosa? Ma se l'avete fatto per anni. Ma lascialo fare a chi lo sa fare. Comunque vi sai cos'è la cosa più bella di questa trasmissione? Quando sentiamo. Ti dice Giuseppe di stare zitto come obbedisci. Quello è il tuo ruolo. Ma io sono il capitano. Ma sai perché? Perché altrimenti lo licenziano. Quando ti mette a cuccia, se a lui lo licenziano, cosa trova? Quella è la cosa più bella. Ma se a te ti licenziano. Mi piace quando ti metto a lavorare nel tuo bar. Rimani a cuccia. Tu prova a entrarci, vedrai cosa ti faccio io. No, quello ma non tu si prova! Quello tu prova! Quattro! Crudino il 4! 3-0-5! Il conto! Questo è pazzo! Mamma, mi viene mal di testa. Cambia spacciatore! Veramente! Dammi ascolto! Cambia pulsio! Cambia! Io, eh! Io, vabbè, tu! Ancora in circolazione. Proprio tu! Abbraccio Vanna Marchi e Stefania Nobile. Curati le occhiaie! Perché per me... Che, quando qualcuno è stato in carcere ha pagato, poi la può pensare come vuole, ma comunque è stato in galera, ha sofferto e ha pagato. Parenzo, su questa cosa qui non mi devi rompere i coglioni. Abbracci e baci. Grazie. Grazie, grande Giuseppe. Pubblicità, ciao. Sta zanzara, mamma mia, no, che fastidiosa. Zanzare. E ancora a casa, in collina, in campagna. Donatella dai Sernia, buonasera, signora Donatella dai Sernia. Via le due garbate signore. Salutate via, sono eleganti, via. Signore, eleganti. Adesso quelle. Non puoi dire nulla perché non ci sono più, no, non cominciare. Dai. Infatti, no. Donatella dai Sernia, sennò è troppo facile. No, dai. Esatto. Donatella. Due signore così eleganti. Buonasera a tutti e due. Non sento nulla, la richiamiamo. Marco da Milano. Sono qua, buonasera. Dica. Allora, stasera sono abbastanza incazzato con Cruciani, mentre Parenzo ottimo, devo spezzare una lancia perché ottimo, ha difeso la trasmissione, se non altro, perché sì, il problema lì è che invitare queste persone e dargli visibilità, l'errore sì, più grande che si può fare, questa è spazzatura, sì, vanno sì, messi in una casa popolare sì, a 700 euro al mese per tutta la vita a visibilità. Ma ci vada lei in una casa popolare, non rompa i coglioni, ma vacci tu in una casa popolare, vergognati di quello che dici, ma vacci tu in una casa popolare, vacci tu, è una porcata da visibilità, ma vai tu in una casa popolare, bisogna chiudere il coperchio sopra la spazzatura, ma vai tu in una casa popolare, vai tu, quella è spazzatura, non fargli aprire i ristoranti, farle parlare, farle tornare, ma io non ho capito, ma uno che è stato in galera ha pagato, è stato condannato, non ma ha diritto di vivere, cazzo, che perché moralmente non ha pagato un ma cazzo, ma quello è un altro discorso, neanche la giustizia italiana, ma come sappiamo neanche, permette la semilibertà, non permette pento, di uscire non prima, ma non si è pentito, ma se uno non si è pentito, non si è pentito dalla mattina alla sera queste due, ma se uno, ma scusi un attimo, lei come diavolo si chiama? Marco, Marco. Scusi un attimo, se uno pensa di essere innocente e pensa di essere ma stato, ma sono cazzi suoi, anche i brigatisti pensano di essere innocenti, e infatti ma a me non me ne frega un cazzo, ho capito, ma fossi un parente di quelli che loro hanno massacrato, sarebbero tutti e due su una sedia a rotelle, ma che cazzo stiamo dicendo? Zio, hanno fatto quello che hanno fatto per soldi, soldi importanti, non per sopravvivere o per una causa anche sbagliata. Sono state condannate a 9 anni, sono state condannate a 9 anni. Pensare di qua e di là a calci nel culo, Cruciani. Comunque, guardi, a calci nel culo le prenderà lei. Io ho diritto di invitare chi cazzo voglio, questo capito? Certo, ma no, lei li può invitare, però dargli visibilità. Ma visibilità che significa visibilità? Qui c'era Parenzo, qui c'era Parenzo, qui c'era Parenzo che ha detto quello che pensava. Ha detto no, tutto il male possibile. Che lei sia così intelligente da aver fatto assumere quel ruolo a Parenzo. No, no, guardi, guardi, non a ci me non mi fa assumere il ruolo. A parte che oggi non ci siamo parlati, glielo giuro davvero. A me non mi fa assumere il ruolo nessuno, perché quel che dico, dico, e come sa, alle volte mi scontro con Cruciani su cose vere. Piaciuto, quindi nessuno mi fa non assumere ci sono ruoli, nessun ruolo. E non a me c'era proprio, nulla guardi, di preparato. Dunque, nessuno, non ci rompa le scatole, arrivederci, grazie. L'abbraccio, traffico, traffico. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il petto. Guarda la zanzara, è incominciata a essere rincoglioniti, eh? Questo è possibile. Allora, intanto stanno discutendo ancora se eliminare o no le province, cioè è sul filo l'eliminazione delle province, la sterilizzazione delle province, chiamiamola così, tu ti rendi conto o no? Ma quante settimane mamma, sono? Il conto ce l'ha Alessandro Milan. Quante settimane che sono che si parla dell'abolizione delle province? Io divento pazzo per questa cosa. Qualcuno ha votato anche contro, peraltro, qualcuno. Qualcuno, io eh, non voglio dire chi, perché sennò poi mi attaccano di me. No, no, no, chi è che ha votato contro? Dillo. Non lo so, devo informarmi ancora. Eh? Devo informarmi. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Su questo alle volte hai ragione. Domani, ragazzi, domani, vendita, televendita, questa sì, però per beneficenza, televendita specifica. Potevi chiamare le due, no? Sì, questo è vero, non ci ho le pensato. Due, le due sontuose e garbate signore, non ci ho pensato. Domani, chiediglielo. Potevamo fare la televendita. Abbiamo la maglietta di Razzi, d'accordo? Sono 2 euro. Ma uno, ma come fa ad andare adesso? No, per carità, fanno le bariste, benissimo. Ma uno, ma non gli viene mal di testa solo? Beh, magari non parla così bar, al bar, non è che parla ma così al bar. Ma sempre parla così! Caffè! Corretto! Carogna che sì, ma avevi promesso che una volta uscito sì, dallo è vero, studio scusami, non scusa, è vero, è vero, basta, basta domani, scusa, domani scusa, puoi parlare, proprio stasera no. No, basta, è vero. Però sono, dico così, la, com'è sono che, così eleganti del com'è resto, che fa? Signore. Com'è che fa? Com'è no, che fa? Sono così tanto. Ma com'è che fa? Così garbante. Com'è che fa sulla maglietta di Razzi? Come potrebbe essere la televendita? Abbiamo qua Radio 24 una maglietta del signor Razzi! Stefania, dov'è il mago? Dove cazzo è il mago? La lascimento la vendiamo soltanto a 4 euro. Poi aggiungiamo un chilo di sale che fa benissimo alle verruche. D'accordo? Sei uno stronzo. Io. Io. No, caro. No, no, no, no. Una botta al polpaccio e poi all'altro. Una botta nel braccio e poi all'altro. Donatella dai Isernia, su, Donatella. Speriamo si senta. Adesso sì, adesso sì. Adesso sì, salve a tutti. Io stasera ho raggiunto proprio l'apoteosi del dolore fisico nel sentirmi offendere Parenzo, che io adoro, incarna il mio ideale di giustizia è veramente... E anche di uomo, proprio... direi, anche di uomo, no? E, anche di uomo? Fantastico, gioca bene con te il ruolo della persona per bene. Ma le piace anche come uomo? Beh, adesso questo mi sembra... Sì, sì, è bellissimo, è eccezionale. È chiaro, cioè, è chiaro che è un troll, questa qua, è un chiaro troll. Guarda, un gatto che ormai è tutto finito. È evidentemente un troll. La regia si prende queste libertà di commentare alle volte. È chiaro che questa Donatella è finta. Da questa cosa, da quello che ha detto su Parenzo, è evidentemente un troll totale. Pare che io faccio chiamare per Dio. Allora, Donatella, mi dica. Come sempre soffro quando l'offendo. Beh, certo, perché ce ne vorrebbero tante di persone come lui. Ma perché lei dice che è bello? Scusi, come fa a dire che è bello? Aspetta. Lo vedo. Lo vede. Ma io posso essere la mamma di Parenzo. Vabbè, lasciamo perdere questo. A Parenzo piacciono anche le MILF, però il problema... Però se avessi un figlio come Parenzo mi riterrei una donna soddisfatta. Ma che si riterrebbe una donna soddisfatta, sì, addirittura. Sì, sì, vorrebbe. Ma fisicamente cosa le piace di Parenzo? La mia generazione ha trasmesso qualcosa di assolutamente giusto. Questa è bellissima, questa cosa qui. Quindi Donatella... bravo Parenzo, e proprio soffro quando ti aggredisco. Non ma fisicamente cosa ci trova di bello in Parenzo? Ma adesso basta. No, lui ha proprio l'ideale di giustizia, cioè non dice una cosa fuori posto, fa delle riflessioni intelligenti, si è saputo difendere dalle stofante Marchio, dai forcaioli che chiamano. Beh, veramente rappresenta è il suo ideale di uomo, è il suo ideale. Il suo ideale di uomo. Vabbè, ho capito, Donatella, grazie. Parenzo, è stupendo Parenzo. Questo grande, era un altro. Davvero grande. È stupendo Parenzo. E poi invece va bene, è normale che tutti i furbetti, tutti quanti non c'è dubbio, che sposano l'idea clientelare dell'Italia non sono d'accordo con Parenzo, beh certo, invece tu lui incarna. Tu sei molto simpatico, giochi il tuo ruolo di cattivo. Ma io sono un cinico senza ideali, ma a me che me ne frega di queste cose, la giustizia, la purezza, ma non me ne fotte nulla. Aldo da Roma. Io vi devo chiedere questo, per favore, fatemi sapere quando Parenzo farà questo giro, perché io lo vorrei incontrare, lo devo toccare per forza Parenzo. Capito? Parenzo, è stupendo. Ma Parenzo. Non mi interessa. Però, è il famoso giro che devi fare con i camionisti froci. Sì, non mi interessa. No, con i camionisti che sono rimorchiati dai gay. Esatto. Aldo da Roma, signor Aldo da Roma. Pronto? Prego, dica. A Lucia, tu mi devi dire se carne o pesce, cioè? Ma come fai da quei tu solo a fargli di strozzo a Parenzo? Cioè, a voile o a vapeur? Le vuole sapere. Io pure sono delinquente, no? E fa, vabbè, pagano, questi pagano mai loro, guarda, c'è il lampadario. Ma chi sta dicendo? Chi? Le due, ma che pagano quelle? Vabbè, qualche anno di galera se lo danno fatto. A me, mi danno a me i cosi sociali, ma danno niente. Ma perché lei che ha fatto? Lei che ha fatto? Che reati ha commesso? Che reati ha commesso lei? Solito spacciatore che chiama qui, che cos'è? No, non sono spacciatore, sono consumatore della marijuana. Consumatore di marijuana, ma quanto? È stato in galera lei? Sono stato sì. E quanto è stato in galera? Sono stato poco, perché mo adesso sto per i motivi di salute a casa ma quando mi dicono delinquente, che sono tutti innocenti, sono. Ma io non ho capito, signor Aldo, lei perché è stato in galera, per quali motivi? Spaccio? Perché sono consumatore. E beh, che uno va in galera con che cosa? Quanto però? Ma lei mi sa che è eroina, non è 3 grammi di marijuana. Quanto? Quanto hanno trovato? 20 grammi. E quanto ha preso? Questo personale, un anno e 4 mesi. Ma è stato in galera, questa è la vergogna dell'Italia, vedi, questo qua è stato in galera un anno e 4. Quanto è stato in galera lei? Non ci sono stato, io sono stato un mese, poi vabbè, poi perché ai motivi di salute sto a casa, perché io ho avuto un linfomatologico che per i dolori mi devo fare. Pure. Però a parte questo qua, no? Io sono d'accordo che... No, però lei non me la racconta giusta, non è che è stato in galera solamente... Ma tu da chi te pare la missione, Lucia? Io non te dico che tu un po'... No, però, a signor Aldo... Ha fatto un strozzo a Parenzo che gli dice a quelle là, capito? Io pure delle volte sono stato innocente, no? Come dicono loro. Non delle volte sono volte stati... che mi hanno preso, no? Scusi. Berlusconi, che dici te, tutti quanti. Scusi, Aldo, signor Aldo, dimmi una cosa, caro Aldo. Dimmi. Perché mi incuriosisce questa cosa qui. Tu difendi solo chi ti pare, quello è il problema cruciale. È perché tu non difendi chi solo ti pare. Perché i soldi difendi. Ma figurati. È importante. No. Sei un tappetino, sei cruciale. Vabbè, sono un tappetino, vabbè, tu lo puoi pensare come vuoi. Ma sei pure romano, no? Ti rispetto, Ma non dici niente di tutto che sta succedendo a Milano, a Spora, a Torino. Torino, tutta sta gente qua. Ma è anche, amica, sono le indagini ancora. Sono indagini, so. Certo. Quelle gente, mo ti dico una cosa, Crucia, io sono un poraccio, no? Sì, beh, non lo so, questo lo dici da solo. Gente che ha studiato, giacca e cravatta, gli hanno dato modo da far del bene e se sono quasi tutti quanti se stanno no, a curare, però, no, però scusi, signor Aldo, al di là di questo, voglio capire, lei sì, perché, questo, quanta galera ha fatto lei? Ma quanto non ho fatto neanche proprio uguale, l'ho sempre detto, ma la so fatta e me la faccio, no? Non è un problema. Ma lei mi sembra strafatto pure stasera, mi scusi, io. Come è strafatto, ma ci sarai strafatto di Beh, dalla voce, mi sembra, Parenzo, ma non è mica. No, sembra, non è mica un po' impastato. Ma dallo stronzo a Parenzo da quei due sole, e difendi pure. Ma non le ho difese, dai, su, Aldo. Ma le difese, dai, a Crucia. Ma che hai fatto stasera? C'è la voce impastata. C'è una voce impastata, è una voce impastata. Ma la voce mia così a Crucia. La voce tua, ma sì. Ti fai ancora la marijuana? Le canne? Ma, grazie. Te le fai? Te le fai? Fatta, però. Quante te ne fai al giorno? Una, due, certo, se uno si ridurre come te è meglio non farsi le canne. Perché ridurre come te sta meglio, te pensi che sta meglio da me, te? Che parli che la radio. Questo pure è vero, questo pure. Che tu stai meglio da me. Ma no, ma per la voce, me. Dico, per la voce un po' impastata, ma dico per quello. La voce è quella. Vabbè, d'accordo, la voce è quella. Se tu giudichi la gente va ma voce. No, ma che giudico, dai, che sto scherzando, che giudico, ma ti pare allora che giudichi? Che dici, scusa, se manco me, io attento e giudico, io ti sto dicendo per quello che ha fatto adesso, poi per quello che fa Navi, non è che te sto dicendo, non te conosco, come posso parlare? Vabbè, capito? Ti abbraccio. Grande Parenzo! Ciao, Aldo, ciao, meno canne, ciao. Parenzo, è stupendo, Parenzo, magari. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Grande Parenzo! S'abbrucia proprio addosso a me. Massimo, Milano, eccoci. Massimo. Buonasera. Andiamo. Volevo dire due cose, ma sarò molto circonciso. Bravo. Ecco. No, volevo dare una tiratina di orecchie a Crucianti. Io sento sempre un ritorno quando vi chiamo. Ma io la sento benissimo, guardi, un po' disturbato, adesso bene. Vabbè, la richiamiamo, dai. Un attimo. Ma le due garbate meggiere. Un attimo, Parenzo, vai. Pronto? Sono Parenzo, ciao, Cantone. Chi sei? Parenzo, ciao, Radio 24. Ciao, mamma mia, come ciao. Sento il ritorno. Che dove sei? Sento sempre stare in Val d'Aosta, che c'è un ritorno pazzesco. No, volevo no, dirti no. Questo, Radio 24, ciao. Volevo dirti sta roba del CNEL, che è saltata fuori sta roba che ieri anche il segretario della UIL lo ha detto, dei 25.000 euro all'anno che finiscono, che vengono dati al sindacato. Tu sei anche dentro anche tu nel CNEL? Sì, da qualche mese, sì, ho sostituito, credo, Epifani, non so, che era andato via. Ma non c'è mai andato nessuno lì però, perché ad esempio il segretario della UIL ha detto che non c'è mai stato, manco una volta, su 12 riunioni, manco una ne ha fatta. Beh, è un problema suo, noi ci andiamo sempre. Tu sei andata a CNEL? Sì, quando c'è l'assemblea generale, perché ci sono più gradi di responsabilità dentro il CNEL, quindi. Però è una roba da, cioè, voglio dire, la cosa incredibile. Ma ti dirò che guarda, non interessa molto, però insomma, che ti devo dire, bisognerebbe fare un bel ragionamento sul CNEL, ci sono stati negli anni scorsi. Tanto adesso Renzi più lo chiude, quindi chi se ne frega. Tanto Renzi lo chiude. Lo chiude. Ma cosa avete prodotto in tutto sto periodo? Niente proprio. Io niente. Non piango. Beh, non chiederlo a me che da pochi mesi. No, è vero, tu anzi sei una di quelle che ci è andata, anche dice, rispetto a altri che non ci vanno mai. Voglio dire, sono andata alle due assemblee, quelle grandi di cui faccio parte, perché c'è l'assemblea grande, l'assemblea più piccola, le commissioni, l'esecutivo, ci sono più gradi, capito? Perché lì 25.000 euro all'anno, diceva il segretario della UIL Angeletti, e lui non ci è andato mai, manco una volta gli ha detto, gli ha ricordato ieri il signor Formigli a Piazza Pulita. Me l'hanno detto, perché non l'ho visto. Tu comunque hai sostituito Epifani. Hai sostituito Epifani? Sì. E sì, nel numero, però almeno ci vai. Nel numero? Sostituito. No, beh, certo. Però almeno ci vai. Sì, no. Ma ti dico, l'assemblea a cui faccio parte io la convocheranno una volta ogni tre mesi, per cui cioè, è più facile per me. Capito? Ma Parenzo, con chi stai parlando? Scusa, Parenzo. Sono con la signora Cantone. Oh, signora Cantone, buonasera, come sta? Sono Cruciani. Bene, come sta? Bene. Io ogni volta che la vedo. Anche se sento voi due. sento bene lo stesso. Perché la Cantone è una persona molto per bene. No, ma è una persona spiritosa, combatte come una leonessa. Però io voglio dire una cosa, le posso fare? Devo combattere per i vecchietti, se no, poverini, tutti li attaccano. Beh, i vecchietti, i sindacati si sono ridotti a appoggiare i vecchietti, solo però, con i vecchietti è un disastro, signora Cantone. Beh, ma dobbiamo difendere e rappresentare anche loro, certo, non è mica per colpa degli anziani, se i giovani non trovano lavoro e quindi non si iscrivono al sindacato. Però non è una vergogna il fatto che lei, da quando è subentrata, e ancora prima Epifani, prendano come tanti altri, come 60 persone, 25.633,44 euro all'anno, sostanzialmente per non fare nulla al CNEL. Dove arrivano questi soldi? Li arrivano sul suo conto? Li trasferisce al sindacato? No, io non li ho mai visti, vanno direttamente al sindacato. Sì. Ma non le pare una cosa un po' scandalosa che i soldi del CNEL vadano al sindacato? Scusi, ma Cantone, adesso... Anche vadano al sindacato, vanno ai membri dei consigli, del consiglio d'amministrazione, che è fatto da imprenditori, da sindacalisti. No, i soldi, no, quello d'accordo, ma i soldi, questi 25, non è che vanno solo al sindacato, no, questa indennità da 25.000 euro alla... i gettoni, certo, che prendono quelli che fanno parte. Cioè lei sta dicendo, io per fare una riunione ho preso 25.000 euro, ma dove vanno questi tanto soldi? Tanto io non litigo con me. Con Angeletti per voi, eh? No, ma guarda, Angeletti ha detto, Angeletti ha detto che questi soldi, questi 25.000 euro, vengono girati direttamente al sindacato. È vero, no? Anche per voi funziona così? Sì, sì, anche per ma noi. Ma non le pare, non le pare, sono una... quelli che li prendo loro, però sì, io questo non lo so. Lei li dà al io sindacato? Sì. Ma non le pare un po' assurda questa cosa? Cioè, i soldi dei contribuenti, cioè 25.633, che è l'indennità per il consigliere del CNEL, che in questo caso è lei. È l'indennità del consigliere del CNEL. Va a finire direttamente alla CGIL, perché? Perché noi facciamo parte della CGIL. No, ma ho capito. Ma dove dovrebbero andare? Dove dovrebbero andare? Beh, dovrebbero essere appannaggio del... A parte che per me non dovrebbero andare da nessuna parte, che non ci dovrebbe essere questa indennità. Allora diciamo che dovrebbe essere gratuito. Vabbè, no? Ma lei lo cancellerebbe le CNEL? Sì, subito. Ma guarda, io lo riformerei, non fatemi dire delle cose che non... Cioè non lo cancellerebbe? Che sarebbe troppo facile, capito, risponderti, ah sì, lo cancellerei. Così invece così, no. Anche brava la Cantone, dice che lo cancellerei. No, io penso che sia utile avere un ente che discute, c'è anche in Europa, di economia. Bah. Il problema... Ma guarda, il problema è cosa fa e, beh, appunto, e se può essere riformato. Zero progetti di legge. Renderlo un po' più utile. Diciamo, zero progetti di legge. Così. 14 progetti di legge firmati CNEL, 12, 14, 16, non mi ricordo. Comunque poco più. Dipende dal Parlamento. Se ne occupassero farebbero un'ottima cosa. Lei non rinuncia a questa indennità da 25.633? Intanto, perché io non li ho mai visti. Ma Angeletti dice che rinuncia, bisogna addirittura dare indietro i soldi ai contribuenti, una cosa assurda secondo me. lo faccia. Va bene, a presto, grazie. Fare. Direi delle cose che farebbero, cioè cerchiamo di essere seri. Ah, no, ecco, dai. Appunto. Su questo le do ragione, che questi soldi vadano a finire al sindacato è una vergogna. Diciamo, ma come vanno a finire? Cioè, perché è una vergogna? Perché questi 25.000 euro sono dei... Perché i dirigenti che fanno parte del CNEL, in particolare delle commissioni, fanno un lavoro... No, rappresentano, dice lei, lei la dice, siccome io rappresento. Ma telefonate anche a Confindustria. Come no? Guardi, non abbiamo assolutamente. Adesso è la prossima chiamata. Assolutamente. Solo al sindacato. No, per carità. Non mettetevi anche voi, dai. A presto, l'abbraccio. A presto. Grazie. Ciao, un bacio. Oh, chi abbiamo? Donato da Bergamo, dai, Donato. E le due megere sono uscite dallo studio? Pronto? Le due leggere sono uscite da mo che sono uscite. Ma Donato, hanno incrociato magari il direttore napoletano. Hanno detto delle cose su di te irripetibili. Sì, no, irripetibili. Irripetibili. È solo una medaglia. Ti immagini la scena di loro che escono da Radio 24 e per caso che so entra il signor Squinzi, no? Oppure entra in croce e dice: ma chi so, ma che ci fanno? No, beh, la riconoscerà. Sarà più famosa Vanna Marchi di Squinzi, sì o no? Sì, sarà più famosa di Squinzi o no? Ma io siamo il signore Marchi! Lei chi è? Generalmente sono il dottor Squinzi. D'accordo? Grande prezzo! Dici che tentano di vendere a Squinzi qualcosa, dici? Abbiamo qui del sale che per Radio 24 andrebbe benissimo da mettere nel combustibile della radio. Ma guarda che non c'è nessun combustibile, cioè. Certo che c'è, d'accordo? A non faccio il cretino. Sei un coglione. Sei veramente un coglione. Io. Donato Bergamo, Donato, dai. Buonasera. Sì, sì. Vai Donato, vai. Ah, posso? Buonasera, sì. Dottor Cruciani. Buonasera. No, volevo dirle, proprio in relazione a quello che stavate dicendo in questo momento e alla telefonata con la signora, io volevo darle un consiglio, se posso. Sì, però se lei mi dica. Dottor Cruciani, stia attento ai farisei che la circondano. Sì. Il dottor Parenzo è il prototipo del fariseo, colui che è il sepolcro imbiancato, sì, la classica dizione evangelica, sì, colui che si erge a giudice di tutto e di tutti, di niente, colui che è sempre nel primo banco, che dichiara quanto dà di offerta per essere poi gratificato dal giudizio delle persone. Mi faccia parlare, dottor Parenzo, per cortesia, visto che siamo persone educate. Prego, e io non sono finito in galera, quindi ho diritto di poter parlare come lei. Neanch'io. Le sto dicendo, dottor Luciani, si guardi dai farisei, che sono quelli che predicano il fatto che non bisogna peccare, che non bisogna turbare la quiete, la società, eccetera, eccetera. Poi questa persona che sicuramente ha sbagliato, lei e la figlia, ha pagato seriamente. Vabbè, perché 9 però anni concluda, che gli danno, concluda. Io ho concluso, bisogna che passi anche il messaggio che chi sbaglia e chi paga torna ad essere un uomo con la propria si potrà fare però Parenzo potrà fare delle critiche, poi le signore Marchi si sono irrigidite, si sono irritate. Le critiche sì, il pagliaccio no. Poi sì, vabbè, ma ognuno può fare anche il pagliaccio, uno ha diritto di fare anche il pagliaccio. Però se mi fa nervoso io telefono. E infatti lei ha chiamato, ha fatto bene a chiamare. Grazie Donato, grazie. Tante cose, dottore. Arrivederci. Se le porti a casa le signore Marchi, vada lì a prendere un caffè. Oh mamma, dici volta di danzare. Perché io devo mettere la testa a posto. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei si va come, da quanto è single? Da 4 anni. Continua. Fra poco altre puntate. Il reality in qualche modo avrà il suo sviluppo con un intervento dell'eurodeputata comica, in questo caso è oggetto dei vostri desideri non sessuali ovviamente, ma del desiderio di sposarsi, di trovare una situazione di tranquillità, una situazione di pace, non dei sensi ovviamente, ma una situazione di legame sincero, stabilità. E sentiamo Matteo, un architetto di 30 anni, che si confessa alla zanzara. Ciao Lara, sono Matteo, chiamo da Verona, ho 30 anni come te, sono un piccolo architetto veronese, sono anche un piccolo politico, sono un consigliere in circoscrizione, abbiamo abbastanza valori, possiamo confrontare su questo, vieni a trovare a Verona, sono qua a disposizione, io non vengo su da te a trovarti, è meglio che tu venga qua a trovarmi me. Ciao, grazie. Ma io non ho capito, perché dovrebbe andare lei a trovare, sì, tra l'altro, a trovare lui? Dai, galante. Forza. Leo, 46 anni, e cos'è, imprenditore? Ciao Lara, sono Leo, ho 46 anni, sono tifoso della Lazio, di destra, estrema destra, ma senza fissa dimora. E sono sposato, ma mia moglie la posso mandare a fanculo quando vuoi. Ho due amori, una è stata mia moglie, l'altro sarai te sicuramente. Sono tatuato, statuario, amante insuperabile. Amo i cani, ho due maremmani, un maschio e una femmina che adoro. Ed inoltre faccio windsurf, io amo il mare, le donne, tra cui sicuramente soltanto te. Secondo me non ci sono, cioè non ho concorrenti. Ci sono tre fiammiferi che vorrei accendere. Uno la notte per vedere il tuo volto, uno sempre di notte per vedere il tuo guardo, il terzo per vedere la tua bocca e il buio per ricordarmi tutto questo. Lara, sono io l'unico con cui ti potrei fidanzare, ne sono certo. Beh, io vorrei. Questo è pericoloso. No, come pericoloso? Dai. Questo per adesso svetta tra i primi tre, sul podio sicuramente. 46 anni, imprenditore. No, ma hai sposato, dice, mando a quel paese la moglie. Questo è veramente il numero uno. Ma sai la moglie che ha la casa zanzara che sta cucinando? Radio24.it, ma ovviamente è una provocazione, però magari è innamorato sul serio. La zanzara è radio24.it. Continuate a scriverci se volete fidanzarvi con Lara Comi. Michele da Roma, oppure c'è Massimo da Milano che ha aggiustato il telefono? Massimo. Sì, ci sono, mi sentite? Volevo segnalare a Parenzo una cosa meravigliosa, un litigio via Twitter tra Gasparri e Paolo Virzì. Ah, senti, ottimo. Senti, no, senti. Anche con Virzì se le prende. Senti, a un certo punto Claudio Petruccioli, ecco il presidente della RAI, scrive preghiera, Matteo Renzi, la prossima volta pretenda la bandiera italiana esatta, colori verticali, non orizzontali, perché evidentemente c'è stato qualche sbaglio oggi ai vertici dove era Renzi. E risposta di Gasparri, incredibile che Matteo Renzi non abbia fatto cambiare la bandiera italiana sbagliata. Risposta così, ad cazzum, di Paolo Virzì, incredibile aver avuto mediocri inutili come Gasparri al governo del nostro povero paese. Apriti cielo! Gasparri, comunque mi scuso con lei, non è mediocre, lo sarà quando migliora. A Virzì, adesso si calmi onorevole, è ora di cena. Gasparri, quindi si calmi lei, io non l'ho cercata, ho subito una gratuita aggressione arrogante da parte sua, vada pure a cena. Ma in mezzo ci sono state altre cose, in mezzo a questo litigio infernale tra Maurizio Gasparri e Paolo Virzì. Va bene, Massimo allora, Massimo Milano. Eccomi qua, buonasera. Dimmi. Niente, volevo darti una tirata di orecchie per il comportamento che hai avuto nei confronti di Parenzo, che ritengo si sia comportato in un modo giusto, ha preso in giro persone che hanno preso in giro altre persone. Ma io non ho nulla da rimproverare a Parenzo. No, questo infatti non mi ha detto. Dopodiché a un certo punto chiusa lì, invece lui ha insistito, ha fatto. No, lo hai ammutolito in un brutto modo. Ma che ha ammutolito? Ma quando mai? Si è potuto esprimere, esprimere come quando ha voluto, dai. Su, non voleva, diciamo, che andassero via, che l'intervista continuasse. Questo Giuseppe, è legittimo. Ci hai sempre insegnato che la zanzara è come stare al bar, allora ognuno è giusto che dica la sua. Ma infatti ha detto la sua tranquillamente, non c'è stato nessun tipo di problema. Non penso che sia stato castrato Parenzo. No, no? Mi sono, no, no. Vabbè, allora no, Massimo, insultato. Poi volevo invitarti a, se vuoi proseguire a fare il radio trash con certi personaggi, potresti invitare le bestie di Satana o Michele Misteri. Senti, amico mio, dai, su, non fare lo spiritoso, dai. Non fa... ti invito a certe persone, ma lo sai. Sei stato ad ascoltare quello che ha detto Vanna Marchi? Sei stato ad ascoltare, non è allora non rompere le scatole. Michele da Roma, no, aspetta, Giuseppe, dimmi. Neanche una settimana fa sono finiti a Striscia la notizia, anzi le Iene, dalla Nobile, ne parleremo, abbiamo tempo, 200 euro un aperitivo, abbiamo modo di parlarne nei prossimi giorni, non ti preoccupare, non ti preoccupare Michele, non è che possiamo fare Marchi Show un'ora e mezza, cioè Stefano Nobile e Vanna Marchi, la questione del ristorante ne parleremo un'altra volta. Michele da Roma, pronto, ciao, dimmi. Dai. Senti, a me mi siete piaciuti per come avete fatto l'intervista a Vanna Marchi. Io da ex carcerato. Ma perché? Scusa, Parenzo. Fammi parlare. Sì, un attimo, ma perché chiamano tutti ex carcerati qua? Vabbè, questo è interessante. No, ma va benissimo, io adoro. Comunque, Michele, dimmi. No, senti, vivo in una casa popolare, prendo lo stipendio di 850 euro al mese. Sì. E ti dico, io a Vanna Marchi ci voglio fare solo un augurio. E basta. Qual è? È quello là che fa pace con se stesso. Perché se tu sei uno che ha fatto un reato, bravo, hai la consapevolezza che prima o poi vai in carcere, oppure poi un'altra cosa, non stai ai servizi sociali ma stai all'affidamento al lavoro, la signora. Affidamento, bravo, al lavoro, bravo, bravo. Affidamento, bravo, al lavoro, bravo. Ci sentiamo domani, un attimo. Enzo Dasti, velocemente, comunque. Enzo Dasti, veloce. Ciao Giuseppe. Veloce, vai. Ciao, chiedo scusa. No, io sono semplicemente schifato dall'atteggiamento che hanno quelle due streghe e la massima solidarietà a Parenzo. Io non vado mai d'accordo con lui, sono un camionista, quindi sono un rozzo anch'io, no, ma mi fa terribilmente incazzare Cruciani perché hanno la faccia come il culo. A domani, qua, grazie. La faccia come il culo. Grazie. Ciao. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripiedi a titolo personale, prego. Grazie Presidente, breve e circonciso, ma secondo voi perché Confindustria preme... quella è un'altra cosa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta.